cioè quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché, avvocato? No, ma perché avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per no, gli scherzi cretini e di cattivo lo faccio gusto. Stare zitto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare che zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Pronto. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio Capone, stare zitto. Ma qua non so. Pronto. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Nella puntata precedente. Conte, dimettiti! Conte, dimettiti! C'è una nostra connazionale, una cooperante, si chiama Silvia, una delle tante cooperanti che vogliono provare l'ebbrezza e anche una figa imperiale. Volete che sti quattro selvaggi Zulu possano rilasciare una figa imperiale come la nostra cooperante Silvia? Silvia, Silvia. Le passerà il vizio di fare la volontaria, l'assistente spirituale. Una vergogna! Una vergogna! L'hanno detto alla zanzara perché dicono cose inesatte. Il ritorno di Silvia Romano, la volontaria liberata in Somalia dopo un rapimento di un anno e mezzo, ad accoglierla Conte e il ministro degli esteri Di Maio, che dice sta bene, vuole rivedere la sua famiglia. Ecco, è atterrata Silvia Romano, la volontaria italiana liberata dopo 18 mesi di rapimento. E con queste belle immagini del rientro di Silvia Romano in Italia abbiamo la linea. La zanzara. Un poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Basta sentire la trasmissione anche di Radio 24, quella del pomeriggio tardi, il peggio del peggio dell'animo umano. È normale Ci sono pure coglionazzi che con la radio mi chiamano col culo coperto a prendermi in giro sulla salute mia. Matteo! Le loro vite valgono quanto la mia e quanto la sua di vita, senator Salvini. Per l'agricoltura le faccio un invito, posso? Metà gli stivali venga nei campi insieme a noi. Il gruppo che l'ha sequestrata sono dei terroristi che sequestrano una volontaria. Sto difendendo i terroristi. E poi, no, ma per favore, su. Non lo so. Allora, dopodiché, lo sai, questa ragazza è stata libera di scegliere cosa? Durante la prigionia o no? È un problema suo. E ce lo dica. Perché te lo deve dire? Perché forse è costata 4 milioni allo Stato. Quanto paga lo Stato i vostri stipendi? E anche i tuoi, con l'editoria l'ha pagato per anni. Va bene, non si può, non si può fare così. Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Chi è? Sarà stata la fatina buona del cazzo. Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo. Sempre in diretta via Monterosa 91, 2149 Milano. Applauso al sottoscritto. In collegamento da Roma, bunker del Mossad che mai avrebbe consentito quelle sceneggiate incredibili all'aeroporto di Roma. Mai avrebbe consentito. in diretta dal bunker del Mossad, David Parenzo, eccoci. Buonasera cari amici, ma devo già smentirti, non è così, perché lo Stato di Israele è uno Stato che riporta a casa tutti i suoi concittadini. Certamente non bardati da islamici, certamente non bardati da islamici. No, no, aspetta, certamente ma non bardati. Quando questi muoiono, vengono uccisi dai terroristi islamici, quando gli israeliani vengono barbaramente uccisi dai terroristi islamici, lo Stato ebraico addirittura riporta il cadavere a casa e fa di tutto per riavere addirittura il cadavere. Comunque posso dirvi una cosa, signori miei, poi come uno si veste, di che fede è, quello sai, ah, quello, non ha importanza, certo, se uno si mette, no, si mette i vestiti dei suoi carcerieri fondamentalisti, non pagato, assassini, non islamici, hai già, no, non già avrei tutto pagato di questa ragazza, no, che la stata... risposta è no, non avrei pagato, cioè, come fanno in molti pagato? Paesi, no, no e eccolo poi no qua. Adesso mai, ti prenderai mai, gli applausi di mai. Questi quattro imbecilli che telefonano, ma l'umanità sta da un'altra parte ovviamente. Ah, non avresti pagato? E se invece fosse della Lega, ad esempio? Che c'entra la Lega? Se la ragazza fosse della Lega, siccome è islamica, siccome si è convertita, non va pagato perché non è cittadina italiana. Cioè gli islamici sono cittadini di serie B. Che me allora ne frega a me che è islamico o non è islamica, cioè questo è importante per altri motivi. No, hai ma detto non io c'entra. Non avrei pagato, io mica non avrei perché pagato. Islamica, ma mica perché è islamica. E perché non avresti i pagato? I riscatti non si pagano, punto. Hai finanziando e quindi organizzazioni si fanno quindi terroristiche. I nostri concittadini in giro per il mondo, ma lì si cerca di liberarli. È quello che hanno fatto. Si cerca poi di la vita umana prima di tutto, la vita umana prima di tutto. Chissà quanti soldi pagherei, chissà quanto sangue pagheremo. Quindi tu avresti detto alla famiglia, cara, la tua figlia noi non pagheremo. Sai quante volte è successo? Questo è il tuo messaggio. In Italia, sai quante volte è successo? Ti ricordo che una volta non si pagava. Non si pagava. Si impediva di pagare. Comunque, ragazzi, fatemi capire bene, che adesso dico una cosa su cui Parenzo si scatenerà. Noi abbiamo sborsato. Ma no, avete già detto tutto. Noi abbiamo sborsato 4 milioni di euro, forse, sì, ma probabilmente è così. Forse anche probabile, di più, sì, per liberare una ragazza, e va benissimo, sì, italiana, che si presenta, una cittadina certo, italiana. Ma questo nessuno l'ha mai messo in dubbio. Che si presenta in aeroporto completamente bardata, ricoperta dopo 18 mesi dalla di prigionia vabbè, con ma questo dei qua terroristi d'accordo. Aspetta, dalla testa ai piedi in abito musulmano, dice di essersi, aspetta, dice di essersi convertita all'Islam, la stessa religione dei suoi carcerieri, la stessa religione dei suoi carcerieri, che non sono propriamente la scuola islamica pacifista di non so quale città, ma sono degli assassini torturatori patentati. Adesso si fa chiamare anche Aisha. Il nome, come sai, non è casuale, non è un nome inventato dal nulla, è il nome della bambina amante, successivamente, di Maometto, la moglie del profeta Muhammad. Sì, non aveva non proprio 23 particolare. Anni questa moglie, vabbè, non aveva 23 anni. A partire dalla religione. Comunque, ragazzi, a voi sta bene così? Vi piace così? Vi ma piace no, ma un mondo che telefoneranno così? Solo per dire vi che piace, no, purtroppo. Vi piace ma questa roba vi qui? Piace? Vi piace a che è stata piace liberata? Così? Sì. A me non piace. Non hai fatto la fatemi stessa pantomima sui 49 ti indigni sui 4 milioni e 49 milioni della Lega? Non hai fatto casino c'entra? Su quelli. Cioè, ma qui è stata c'entra? Salvata una vita. No, dico, su quei 4, tu dici 4 milioni pagati per salvare una vita. Non hai fatto il cinema sui 49 milioni roba qui, che non di fronte so dove a questa sono. Roba qui. Ma chi se ne frega della gente? Incazzata conta nera, la vita. Nera, ma che, perché tu nera, interpreti la gente? Nera. Perché certo, ma la gente non vorrebbe Salusti. Neanche pagare le tasse. La Salusti. Gente sono questi stronzi che chiamano qui con violenza. È come se uno fossero andati a tirar fuori uno da un campo di concentramento e quello si presentava con la divisa dei nazisti. Brutto, capito? C'è anche una, come dire, un protocollo. Può sembrare Paragone esagerato, idiota, può sembrare folle questa cosa qua del Sallustone, ma è vero, è vero, perché la divisa idiota, la divisa è indossata dalla signora, ma io guarda no, io ma sono, voi che ne sapete? Sono anche come è appena atterrata la psicologa, ma lo sappiamo, l'ha hai detto parlato lui con la psichiatra sua, no, ma hai parlato sul perché vestito lei indossato, si è convertita, ma quello sapete si sa tutto. Ma lascia perdere, perché che ve ne frega, aspetta, non lascia parlare, non lascia parlare, ma tutto quello che può dire è tutto influenzato da quello che è successo, dunque non è, cioè non è appunto, non è questo essere, il punto, esatto. Tu però sei già pronto a dare no, giudizi su come vestita, è questo, sul perché beh, quello l'ho visto. Un fatto è che è stata 18 mesi vabbè, segregata, questo lo sappiamo, non c'è bisogno che ce lo dici tu, e la Somalia e ha detto ho pianto per un mese, vabbè, pazienza, quindi non è aspetta, stata va benissimo, no, ma va benissimo questo. La cosa fondamentale è che si è presentata con il vestito dei terroristi, questo dice Sallusti, dunque ci frega? Sono i carcerieri che hanno un vestito, una bandiera, e lei si presenta con gli stessi vestiti. Ma che vuol dire? Mi piace così? Le donne non le ha mai viste lei. Vabbè. Non ha mai visto le donne. Le mai donne stata con una donna, solo gli uomini l'hanno segregata. Somale, torturate da questi signori. Cosa hanno da dire? Tant'è che una somala oggi si è incazzata, una che vive in Italia, si è incazzata come una biscia. L'Islam non è, dice lei, l'Islam non è quello lì. Non è quello, non è quello sbandierato. Non sono quei vestiti lì dei torturatori. Dai, infatti lei mica è una quindi lei è una torturatrice potenziale. No, io non ho detto questo. Ma che state dicendo? Secondo me state impazzendo tutti sull'onda di questa. Non avete letto un cazzo lo di quello zio, che ha dichiarato lei, senti carabinieri. Lo zio, senti lo zio, senti lo zio di Silvia Romano che dice. Lo zio. L'importante è che è viva, sana, salva. E lei è stata inquadrata, addestrata, lavata il cervello da quelli che sono esperti, gli avranno dato anche delle droghe. Delle droghe, l'avranno anche drogata. Lei conosce Silvia, conosceva Silvia prima che sì, partisse, certo, giusto? Certo. E quindi non reputa possibile quindi una sua conversione spontanea? No, assolutamente, ma poi non è. Ne dico anche che avendola sentita non parla neanche nello stesso modo di prima. Non è lei che vuole farsi chiamare Aisha, anche questo non l'ha mai detto. Di certo non tornerà più la Silvia che era. Se invece sua nipote Silvia dicesse sì, voglio tornare in Africa, la famiglia come la prenderebbe? La famiglia come la prende? Che nessuno la farà tornare in Africa, penso. Passaporto glielo brucio io e vediamo se torna in Africa. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. La somiglianza tra l'islamica Silvia Romano e l'ebreo David Parenzo sta spopolando sui siti di gossip. Presto li vedremo a C'è Posta per Te. Ok, effettivamente è incredibile. Questo me l'hanno segnalato in tanti. È da ieri che girano queste foto. Me l'hanno segnalato, sì. Mi dispiace per lei, per Silvia Romano più che altro. Per lei mi dispiace, per me, io sai, questo... Ma che non ci sia un legame, non ci sia un legame, non ci sia un legame indietro. Comunque io fossi nella povera Silvia Romano, che appena arrivata a 24 ore, diciamo, ha avuto il tempo di raccontare ai carabinieri cosa le era successo, di ritornare a casa e in 24 ore commenti, muori, maledetta, come ti vesti, i giornali della destra che l'hanno accusata di qualunque cosa, io fossi in lei, piuttosto che leggere il giornale di Sallusti, di Belpietro, sarei ritornata sull'aereo e detto, sapete cos'è? Io torno in Somalia, se questo è il mio quella paese. Si chiama libertà, san, però san, quella si chiama san, libertà san, san. Quella si chiama libertà di aggressione, ma che aggressione, a rompere i si coglioni, quella si chiama una che è stata libertà, appena liberata si libertà chiama aggressione, di espressione, ma che cazzo e dici? Ti dico di più, cioè, stai dicendo, mi auguro che stai la famiglia che Romano Sallusti porti via tutto a quei giornali, sì, ma assolutamente sì, ma quella è libertà darei di espressione, ma che dici, per quei commenti e per quelle cose che hanno scritto gli portassero via, perché Sallusti non può dire che è come se si vestisse da nazista, se di un mio familiare pensare se da un mio familiare appena tornato avessero detto quello, ma avrei cosa? Fatto una causa ma milionaria al giornale e a tutti quelli che sputano. Ma perché non si può dire, non si, non si può fare scritte, un paragone con le cazzate. Ma che le cazzate, quelle le dici tu che sono cazzate? Perché non sappiamo nulla. Ma che non nulla sappiamo nulla, sappiamo quello che abbiamo visto. Così. Ma non come sappiamo perché? Quello ma che dobbiamo subito. Pensare che è drogata? No, state commentando solo, ma detto, solo ha detto sulla lei che base si è convertita, di una non io. Che dopo che dici? Di... Ma anche lì ci sono gli psicologi che valuteranno in che modo si è convertita. Ma che lo dice lei? Allora che pensi che sia drogata? Pensi che sia incapace di intendere di volere? È stata 18 mesi in uno stato di prigionia e sicuramente tutto quello che le è accaduto è alterato dall'emotività di quella condizione in cui per 18 mesi è stata segregata. Se poi si è convertita con libertà lo vedremo. Fatto sta che i commenti di questi giornali sono da vergogna. Ma quale vergogna? Stiamo perché non sono notizie, ma sono commenti, non sono fatti. Ma tu la libertà? Non sono fatti, sono insulti. La libertà non è l'insulto. Abbiamo liberato un'islamica, libera un insulto. Abbiamo liberato un'islamica, è un insulto. È una stronza, è una cazzata. È una pura cazzata. Abbiamo liberato una cittadina italiana. Che si può dire quello che non si una cittadina italiana. Io dico, fossi nella famiglia, chiederei un grande risarcimento a tutti questi giornali. Risarcimento perché? E poi perché vediamo, cosa? E poi vediamo. Ma perché per queste campagne di stampa? Ma quale campagna di stampa? Fossi nella famiglia lo farei. Poi vediamo. Per carità, libertà, massima libertà. Tu insulti? Libertà di querelare però. Ma querelare mi insulti che? C'è la libertà ma della querela. Ma quale? Dove? Delle ricostruzioni. Gli unici giornali che hanno ricostruito quello che credo sono stati Il Sole 24 Ore, Il Corriere della ma Sera. Ma chi se ne frega dei giornali? Ma non si può. Basta ma tu sei la pazzo Sarzanini totale. Che ha raccontato. Ma chi se ne frega? Ma qui al di là dei commenti, tu hai letto come è stata liberata, come ma ha passato i 18 niente. Mesi, ma è un'altra a te cosa, ti interessa no. solo del vestito, vabbè, cioè, è quello non che si è vista all'aeroporto, a non te per interessa i solo del vestito, non dei 18 mesi che lei ha passato, non di come è stata spostata da una parte all'altra, ma quelle sono dettagli, ma il Capezzone che andasse a fare in culo Capezzone. Un branco di miserabili pagati per dire stronzate. Capezzone, vai. C'è anche una parte di cui non ci si può affatto rallegrare, è il consistente riscatto pagato al gruppo jihadista e soprattutto l'incredibile spot in diretta televisiva regalato ai jihadisti con la conversione della ragazza che arriva col velo integrale, il governo ad omaggiarla, la stampa che fa eco a questa notizia della conversione volontaria e spontanea. Ma nessuno ha detto questo è quello che dice lei. Propaganda per terrorismo finanziata da noi, Liguori. Vediamo se ti piace questo. Propaganda per il terrorismo finanziata da noi. Ragazzi, era vestita come il gruppo terrorista che l'ha imprigionata. Questa è la realtà, al sì, di là delle non chiacchiere. Sappiamo nulla, ma chi se ne frega, questa è la realtà come? Che abbiamo visto all'aeroporto. Che è stata la sceneggiata all'aeroporto. In sei prigioni. Ma che c'entra? Ma quello è il punto di arrivo di una storia. Ma che c'entra? Tanto non hai capito. La palandrana che indossava era la divisa di Shabab, delle donne di Shabab, quella palandrana verde, era un costume indossato per l'occasione propagandistica della televisione. Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, Conte e Di Maio non hanno detto una parola su questo e nemmeno il povero ambasciatore è riuscito a farla cambiare prima di portarla in Italia. Questo non va bene, questa è propaganda per il terrorismo che abbiamo anche finanziato con il suo riscatto. Ma scusa, ma Liguori ha ragione, ma tu non puoi pagare. Ma e Liguori poi... dice una cosa, dice no, una cosa, ma ragazzi... vera. Ma questo attiene alle indagini che ma no, si faranno, dice, dice si che uno fare. Prima di presentarsi no, no, all'aeroporto fermo, ti presenti fermo. In maniera regolare, questo non con gli stessi abiti dei terroristi. Alle indagini che devono essere fatte vabbè, sul perché e sul per come di questa persona. Chi gli ha dato quei vestiti, porro, come, porro, che cosa è successo. Porro. Per ora sappiamo poco. Pochissimo. In tutte quante le pagine dei giornali si vede quella foto che io trovo orrenda, orrenda, abbiate pazienza perché confligge con il sorriso straordinario di questa ragazza, ma quella quel sorriso straordinario, quegli occhi giusto, straordinari giusto. Felici di una ragazza che è stata rapita per 18 mesi confligge con quella tunica islamica che è il segno dei suoi sequestratori. Questo è un dato che io vi dico a pelle. Ma è così ragazzi, è così, è una cosa orrenda cosa quella roba lì. Ma cosa niente, ma non cambia niente. Si può dire che è orrenda quella roba? Si può dire che è orrenda? Cosa ne sai di quella roba? Perché invece non parli della sua testimonianza di quando dice che è stata segregata in 7 giorni? Cioè ti fermi sul vestito, ma sai qualcosa di chi gliel'ha messo, chi gliel'ha dato, del perché? Ci sono delle indagini per capire, no? Ma questa è la Zanzara, ma che cazzo è? E questo merita l'insulto del fatto che è un'islamica? Ma chi è l'insulto? Ma questo merita questo? Merita questa cosa qua? Questo è pazzo, vabbè, parliamo di altro, dai. Se merita questo. Siamo arrivati al punto in cui il ministro Boccia dice che chi porta un caffè a uno che è seduto in una panchina commette un reato. Ragazzi, è vero, eh? Cioè, chi porta un caffè a uno che è seduto su una panchina commette un reato. Il ministro Boccia questo ha detto, credo stamattina, questo sulla Sette. Questo è una sciocchezza. Ma chi porta un caffè a uno che è seduto in panchina commette reato, e noi paghiamo i terroristi. Adesso così te la butto lì così. Mentre paghiamo i terroristi così. Te la butto così a caso. Mentre paghiamo i terroristi. Mentre paghiamo i terroristi. Come quelli che scrivono, fanno la TV al plasma anziché dare il plasma ai malati. È uguale. Vai. C'è la TV al plasma anziché dare il plasma ai malati. Mi scusi, ma se un ragazzo senza linee guida e-rail è un dipendente di un bar e porta il caffè su una panchina, sta commettendo un reato? E lo dico al proprietario di quel bar, sta facendo una cosa che non può fare. Se quel ragazzo si contagia, chi ha autorizzato una cosa di quel tipo la paga personalmente. Io dico, perché dobbiamo fare questo per 5 giorni, 8 giorni di differenza? Il governatore del Veneto, se il virus perde forza, e allora è artificiale. Un virus in natura non perde forza con questa velocità. Se perde forza, probabilmente potrebbe essere allora un virus artificiale. Se se ne va tanto velocemente, secondo me di artificiale c'è qualcosa di mezzo. Mauro da Pistoia, Mauro da tutto Pistoia. Probabilmente, forse. Ma Mauro Pistoia, vai a parlare. Ciao Cruciani. Dimmi, mamma vai, mia, vai. Mamma. A me non mi interessa né di Greta, né di Rachele, né di Silvia. Che ora si chiama Aisha. Come Aisha, si chiama? Aisha? Si vuole far chiamare Silvia, Aisha. Silvia Romano. No, Silvia Romano. Aisha, l'ha detto lei. Chiamatemi Aisha, ma che cazzo vuoi? L'ha detto lei, vuoi negare pure quello che dice? Si vuole far chiamare Aisha. E chi se ne frega? Sarà un suo diritto. Ma per questo vi dà così fastidio. Ma no, ma chi se ne frega, vai. Parenze contro gli italiani. Dimmi. Non c'è niente da dire, non c'è niente da fare. Perché? Prende per il culo tutti. È tornata una cittadina italiana e dice che è contro gli italiani. Perché contro gli italiani? Ma cosa c'entra il Rosbif? Demente che non sei altro. Cosa c'entra il Rosbif? Che cazzo vuoi col mio Rosbif? Che cosa vuoi il Rosbif? Che c'entra il Rosbif? Che c'entra, scusa Mauro? Il Rosbif è per chi non ha osa. Ma che c'entra il Rosbif? Cosa c'entra il Rosbif? Ma tu non devi bere alle 6:30. Come ti poni con Cateno De Luca, che è un senta, uomo dello Stato? Come ti poni con Cateno De Luca? Un uomo dello Stato. Ma che te ne frega? Sì, un uomo dello Stato. E ti devi solo vergognare. Ma vai perché? A vivere a Messina e non rompere i coglioni. Se ti piace De Luca, vai a vivere a Messina e basta. Vai là, falla finita, vergognati Alessandro. Ma tu da Milano, che cosa fai per vivere Alessandro oltre a chiamare? Che fai? Fammi sentire Alessandro. Abbiamo iniziato malissimo stasera. Alessandro, pronto? Mi sentite? Dimmi Alessandro. Sì, ciao. Sì. Allora, io sono un amico di Silvia Romano. Amico, che vuol dire amico? Che la conosco bene. Sì. Cosa vuol dire amico? Vabbè. Niente, tutti possono essere amici, tutti e nessuno. Vai, comunque dimmi. Crediamoci, diciamo, facciamo finta. Vabbè, di credere. Non ci credere, no, non me ne frega un cazzo se non allora, ci credo. Allora, l'unica cosa che volevo dire è questa, che mi sembra, io veramente sono, per certi versi, nel senso, sono sempre d'accordo con quello che dici quasi sempre sulla libertà di espressione. Sì, perché non si può scrivere, non si può scrivere che la divisa, cioè il vestito indossato da Silvia Romano. Ma non hanno scritto questo. Io non so adesso. Non hanno scritto che me ne frega questo. Dei social, degli insulti sui social sono una merda, che c'entra? Gli insulti sui social sono una merda, quelli manco li considero insulti, io. Dico nemmeno li considero. Tipo Feltri, dico Sallusti, questa gente qua che dovrebbe fare informazione. Ma perché secondo te uno che ha un'opinione che non bisogna pagare il riscatto, non bisogna finanziare terroristi è sbagliato? Non è un'opinione, ma è un'opinione. Non hanno detto questo, non hanno scritto questo. Dimmi. È stata rapita quasi 2 anni, è stata liberata, deve essere solo lasciata in pace e non dire tutte queste fregnacce. No, Alessandro, sono tutte fregnacce. Fregnacce, io ripeto, cosa sono fregnacce? Io sono incazzato nero perché sono io la conosco bene e e non vorrebbe che si parlasse di lei in questa il fatto è pubblico, quella arriva all'aeroporto, non è stata nascosta, ha indossato un abito, ha detto di essersi convertita, noi non dobbiamo parlare e noi non possiamo criticare queste scelte, non possiamo criticare le scelte di qualcuno. Ma qual è il tema dell'abito? Che tema è quello dell'abito? Ma io non sto io non sto parlando male di lei. Che tema è quello di che abito? Che tema è? Tu lo sai lei che pressioni psicologiche può aver subito? Nessuno sa niente da questo punto di vista. La cosa sicura è che quello la cosa. Ora la notizia è che la prefettura di Milano sta addirittura valutando la protezione per gli attacchi che ha ricevuto, peraltro. La Zanzara. Pronto? Allora, vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta, tanta, tanta paura? Sì, mi dica. La terminazione nervosa che è presente dentro l'ano è evidente che procura un piacere talvolta superiore, secondo alcuni. Per cui, ragazzi, ma dobbiamo fare le prossime puntate sulla differenza tra la penetrazione anale e quella vaginale? Dimmelo subito, dimmelo subito, perché mi stai spronando, mi stai suggerendo, mi stai suggerendo. Tu mi dici di dimmi di sì, dimmi di sì che non lo faccio, dimmi di sì. Grazie. No, no, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese ma è meglio il mojito. Eppure liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove uscito, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il signor Parenzo. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. Noi, Alessandro Primo. Cosa? Cioè, ma lo sai che la voce di quella che grida politici fitusi mi arrapa un casino, Cruciano? Mamma mia, ma non lo so, sarà l'accento, non lo so, sarà il timbro, non ho idea, ma mi arrapa. La sono andato pure andare a vedere su Facebook, per carità, non sta a me dire un granché, cioè queste cose non si dicono neanche più. Comunque a me Cruciano mo da, ma solamente a me o anche a qualcun altro. Il mio nome è Aisha. Sono musulmana e sono pronta a tornare in Kenya, ma vi rendete conto a che cazzo di livello siamo arrivati? E la gente sta a fa la fame, le partite IVA se muoiono di fame, non arriva la cassa integrazione alla gente e noi stiamo a dare i soldi per sta coglione. Oh, che fenomeni che siamo! Siamo andati a liberare la Silvia Romano, complice dei terroristi. Islamica, una così deve essere arrestata per essere complice? No, invece l'abbiamo pure pagata 4 milioni di euro ai terroristi, ma che gliela lascino in mano, vaffanculo, che pezzi di merda che siamo diventati. Ma se i carcerieri islamici erano così buoni e se lei stava così bene aveva un rapporto così straordinario con i suoi carcerieri e addirittura ha trovato nell'Islam la risposta alle sue domande, tanto da convertirsi. Per quale motivo abbiamo pagato fior fior di milioni di euro dei contribuenti italiani per portarla via da questo Eden meraviglioso? Io sto bene a casa mia, mai farei pagare qualcuno perché mi liberasse da casa mia, sto benissimo qua. Se qualcuno vuole darmi qualche milione di euro per farmi spostare di numero civico, io sono a disposizione. era marcato della Lega, caro David. Signor marcato della Lega. Che ha un ruolo anche pubblico, credo che sia un consigliere regionale, peraltro. Sì, no? Chiaramente una cosa è essere carcerati, un'altra cosa è fare una scelta libera, naturalmente. Cioè, questo non c'è dubbio. Ma questa è stata in prigione per 535 giorni. Se lo ricorda Marcato o no? Ho pianto per un mese. Buongiorno, mi chiamo Nicolò, sono un lavoratore 28enne di Verona. Volevo premettere che sono molto felice per la liberazione di Silvia Romano, però trovo una presa in giro l'assembramento sotto casa di Silvia, come più volte è successo anche per l'inaugurazione del ponte di Genova, anche come è successo anche per l'arrivo all'aeroporto. Cioè, questi politici del cazzo ci danno ogni giorno lezioni su come ci dobbiamo comportare, su come dobbiamo comportarci, su come dobbiamo comportarci ogni santo giorno: distanziamento, mascherine e i vigili che intervengono nei bar per multare i baristi che magari danno un cocktail, danno uno spritz e uno lo consuma, no, non se lo porta a casa ma lo consuma. E ne ho viste di tutti i colori, da questo punto di vista, E poi c'è l'assembramento, autorizzano l'assembramento, ma lascia perdere che sia sotto casa di Silvio Romano, non mi interessa. Come l'assembramento per l'inaugurazione del ponte di Genova, come l'assembramento all'aeroporto, anche all'aeroporto c'è stata la stessa scena, incredibile. Tutti ammassati, politici senza distanza, solo Di Maio mi sembra che abbia dato. Dai, su. No, poi c'aveva la mascherina anche Conte per quello, però. Sì, i giornalisti soprattutto, ma anche gli altri, non solo i giornalisti, tutti insieme ammassati. Sì, sì, ma no, ragazzi, non è ma colpa che roba dei è? Giornalisti, è colpa di chi non ha fatto rispettare le misure. No, ma certo. Anche di chi era lì, ovviamente. Sì, ma capito, anche all'aeroporto, cioè era pieno di politici, sì, di funzionari, vero, cazzo, ma bellissimo, ci date lezioni ogni giorno e poi fate finta, poi fate esattamente il contrario, dai. Questo è vero. Intanto Vittorione Sgarbi dice che addirittura Silvia Romano va arrestata. Silvia Aisha Romano, perché dovremmo chiamarla Silvia Aisha Romano, va arrestata perché è praticamente complice degli jihadisti per concorso esterno e terrorismo. 24 ore arrestata. Sono passate neanche 24 ore. Sì, ma questa qua è la libera opinione, tu ti devi abituare alla libera opinione. Si dovrebbe alla basare su alcuni minimi fatti, Ma che significa? Possiamo dire o no? Non sappiamo quali sono i fatti. Cosa sappiamo? Si è stata liberata con un riscatto. Quanto è stata convertita all'Islam, di questo si parla. Chiediamoci il ruolo della Turchia invece. Chiediamoci altre cosa. Cose. Dai, chiediamoci su, cosa ha fatto in questi 535 giorni. Sono e invece della voi cronaca. Vi concentrate su Maurizio da Verona. Dai, Maurizio. Ma quale cronaca? Mamma mia, quando fai così, guarda, Maurizio da Verona mi fa incazzare. Allora dobbiamo cronaca. Solo interrogarci. Allora, volete soltanto sputare su un vestito? Su un abito? Oh. È facile, sputate su un abito. Ma chi sputa? Chi se ne frega? A me fa schifo quell'abito. L'abito dei terroristi. Ti posso dire, a me l'abito dei terroristi, fornito dai terroristi, mi fa orrore. Sappiamo ancora che cosa ne sappiamo, che se l'è cucito lei. Stiamo, ma tu Roma, sai magari dai. La sofferenza quando ma se l'è dovuto mettere perdere. Magari poi lo ha fatto diventare un suo abito. Mi fa schifo quell'abito, non lei. Mi fa schifo quell'abito dei terroristi perché significa oppressione della donna. Mi potrà fare schifo quell'abito magari o è un attacco a Silvia Romano? Per lei dopo 535 giorni è uno strumento di difesa invece di una persona che la state giudicando in continuazione invece. Come no? Le scelte si giudicano con un'altra cosa, no? La persona, tra l'altro, sembra che gli vogliono dare la scorta. La a me mi sembra di, francamente sì, la scorta per gli insulti e le minacce che ha ricevuto. Allora, anche su questo, ma sulla base di che cosa dici che ti sembra esagerato? Sulle minacce che ha ricevuto. Uno viene insultato sull'internet e ti danno la scorta? Bah, Amedeo da Roma. Comunque ci saranno dei motivi, pronto, per carità. Amedeo da Roma, dimmi. Pronto, ciao Cruciani, sono Amedeo. Dimmi. Senti, io ti voglio bene. Dimmi. Se ti avessero sequestrato, tu dopo 18 mesi saresti tornato vestito no, da odalisca col Corano tatuato sulle tue chiappe sovraniste. No, io non sono le mie Cruciani. Chiappe non sono sovraniste, ciao, amico mio, sono chiappe ciao, e basta. Cruciani, ciao. Ma che cazzo vuol dire, scusi, imbecille? Che vuol dire? No, che per dire che se stai in mano ai rapitori, ma per salvarti fai qualunque ma cosa a un certo punto. Ma chi ha messo punto? In dubbio le scelte di questa? Chi quindi, l'ha messo in dubbio? Maurizio in continuazione lo state facendo. È proprio questo che va valutato. Anzi, Maria Eugenia invece. Da Reggio Calabria, che mi sembra in Maria che Eugenia modo Prestipino. Si è convertita fermo. E perché fermo. Si è convertita? Dimmi, Maria Eugenia Prestipino, dimmi. Ciao, caro. Allora, a parte che volevo dire che Amedeo da Roma è un coglione di merda, perché io mi sarei fatta sparare come a quattro occhi, non sarei mai tornata con quel vestito. Ma io non sto a sindacare per il vestito. Tutti o leoni per al telefono. Leoni mai, al telefono questa. Mai leonessa al telefono, sta poveretta. Leonessa il cazzo, non sto parlare sta manco con te, attraversare la strada. Sta musulmano, qua, non sta manco a tra... Ascoltami, non sa neppure. Giuseppe, non è un insulto musulmano, però, sai. Te l'hanno insegnato, scema, che musulmano non è un insulto, scema, che non sei altro. Io sto dicendo, ho visto una ragazza radiosa. Ma non sei neanche attraversare la strada. Da un viaggio di notte, felice. Ma non sei quella... Scusa, Maria Giacinta, non si sa. Anzi, lei i parenti smentiscono. Io però... spero che la famiglia, ascoltando la trasmissione, si faccia dare il numero di sta imbecille alla Querelli. Visto io, fosse stata veramente prigioniera. No, Maria, io spero che la famiglia Mario Eugenia, io spero che il tuo pensiero venga querelato. Scusa, io mi auguro che il tuo pensiero venga querelato. I tuoi insulti, io mi auguro che i tuoi insulti. Prigioniero, fossi uscito da un lager nazista vestito da nazista. Cioè, Sallusti l'ha dipinta perfettamente questa ragazza. Però scusa, Mario Eugenia, ti posso dire una cosa? La questione della faccia, della felicità. Sta imbecille che è figlia di un ex fascista, peraltro. Sta imbecille figlia di un ex fascista, peraltro. Non capisco cosa mi dici. La questione della faccia felice. Non sa manco attraversare la strada. La faccia felice, Mario Eugenia, è abbastanza normale. Perché uno viene liberato, non può essere scontento. Indubbiamente, però allora se no, però lei ha fatto una scelta, si è convertita liberamente, ok? Se no fosse stata costretta, sì, nell'ambasciata italiana si sarebbe spogliata. Ma che ne sa sta scema che sta seduta in poltrona, manco sa leggere i giornali. Secondo te non si doveva presentare niente di questa Aisha, che allora non si doveva presentare. Una musulmana, non è più italiana. Lei ha dichiarato di essere italiana, ha dichiarato di chiamarsi. Ma quella è italiana. Fermo. Ma che cazzo dice che non è italiana sta povera idiota? La zanzara. Sì, io vedo molto negativo. It's Friday night. What's going on tonight? I soldi per la neomusulmana si sono trovati subito, eh? Quelli da dare a milioni di partite IVA invece è un grosso problema trovarli, bisogna prendere provvedimenti, scendere ad accordi con l'Europa. Invece per la neomusulmana, per la liberazione della nuova martire italica, non c'è problema, vero? Non c'è stata nessuna costrizione da parte dei rapitori, che mi hanno trattato sempre con umanità. Così ha dichiarato la ragazza appena rientrata in Italia. Usano. Già, il conto del riscatto però scommetto che l'hanno umanamente fatto pagare i terroristi alla classe lavoratrice italiana, chiusa 2 mesi agli arresti domiciliari senza sostegno dal governo. Saluto Glamour Bar, sono italiano, e saluto anche il Bar Globe di Piazzale Brescia a Milano. E sti cazzi! Allora andiamo a Caserta da Maurizio. Sì, vai, Maurizio, volevo mettere, volevo farvi sentire la De Mario, ve lo faccio sentire dopo. Anzi, prima... partire IVA, diceva prima l'ascoltatore, hanno fame, quindi passa in reti unificate una bella immagine di un'arancina con la pelandrana che scende sorridente dall'aereo, ti fa adesso, un bel arancina con la pelandrana, Ciccio Franco per la platea dei soliti italioti, va bene, sempre più in basso, guarda, neanche le palle sul pavimento. Perché la chiami arancina? Cosa deriva questo odio? Perché la chiami arancina con la palandrana? Per una italiana liberata, da che cosa deriva questo odio? Ma io non l'ho chiamato per questo motivo. Sì, ma perché l'hai chiamata così? Perché l'hai chiamata in questo modo? Sì, ma perché l'hai chiamata in questo modo? Perché non ho visto una ragazza che avesse delle particolari condizioni di fame o di mancanza. Ma che ne sai? Adesso questo no. Evidente, tranquilla. Cioè, tu dici che è stata felice durante la prigionia. Tu dici è stata felice durante la prigionia perché si è convertita, ha trovato la ragione della sua vita, eccetera. Ha trovato l'amore, l'amore non lo sappiamo, lei dice no. Ma che bestialità dice? Ma che dice? Ma che cazzate dice? La bocca in libertà, vada a trovarsi un lavoro serio invece di rompere i coglioni. Si trovi un lavoro. Drained swamp, finalmente. Ma che vuol dire? Non ho capito. si inizia con la macchina a fare movimento terra in America. Tu stai seguendo quello che succede da altre parti? Sì, sì, ma Maurizio, possiamo, cosa vuoi dire? Non ho capito, spiegami, che cosa vuoi dire? Obama oggi ha twittato... Vabbè, chi se ne frega? Gianfranco da Pescara, vai Gianfranco, dimmi. Gianfranco Pescara, vai Gianfranco. Nicola da Bologna, vai Nicola. Alessandro da Torino, vai, forza Alessandro. Ciao Crociani. Dimmi, dimmi. Ciao Crociani. Senti, volevo fare una domanda a Parenzo che non c'entra niente, che sulla Romano, ma che non c'entra niente con vestiti, conversioni e quant'altro. Volevo chiederti questo, tra gli anni 60 e gli anni 80-90, sì, no? C'era l'anonima, sì, sequestri, certo, te la ricordi? Uno come dei, no, principali provvedimenti che prendevano sempre i giudici. Era il blocco dei beni, il blocco, bravo, dei beni alle famiglie. Bravo. Ma bravo, le dico perché, di più, c'è questo, una canzone, aspetta, meravigliosa di Fabrizio, bene, De André, che è stato rapito con la moglie, sì, Dori Ghezzi, sì, che si chiama Hotel, forse la conoscerà, no? Immagino, sì, quella che bellissima canzone. In cui lui parla dei suoi rapitori e di come è stato durante quel rapimento. Ma non credo che c'è, quindi ogni rapimento è diverso, dai, allora, no, questo è per raccontare la sindrome che scatta tra... posso farti una domanda? Dimmi Alessandro, dimmi. Sì, certo. Allora, visto che questo era il principale provvedimento che serviva per scoraggiare, no, futuri, sì, rapimenti, la informo che sono stati bloccati i beni della famiglia Romano, sono stati bloccati dallo Stato, come lei ben sa. Lo Stato, quando avvengono rapimenti di questo tipo, la prima cosa che fa è impedire alle famiglie di usare canali propri, se così li possiamo chiamare. Alessandro, cosa vuoi dire? Spiegami. Per pagare, quindi, voglio dire, e poi paga lo Stato. Lo Stato fa in cerca di liberare l'ostaggio. Lo Stato cerca di liberare, sì, assolutamente sì. A differenza degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, che sono due paesi che invece te lo fanno. Anche secondo lo Stato di Israele lo fa. Eventuali può ulteriori essere rapitori a purtroppo, rapire altri. Purtroppo può essere, è un dilemma storico. Purtroppo ciao, può essere, ciao, purtroppo ciao, può succedere. Luca D'Arezzo, vai Luca. Luca? Volevo... Sì, dimmi, dimmi. Mi senti? Sì, sì, ti sento, dimmi. Ok, io volevo parlare della cura del plasma e del fatto che nessuno ne abbiamo parlato. No, non è vero, ne abbiamo parlato noi la scorsa settimana, tantissime persone ne hanno parlato. Intanto ne ha parlato il medico in questione. Il medico in questione, due, anche quelli di Pavia, ne hanno parlato in tanti, non è vero che nessuno ne parla. Sì, questa allora, una puttanata allora, pazzesca. Ne hanno parlato su Facebook, ma non è vero, nessuno... hanno parlato in televisione tantissime volte, ma ragazzi, ma cazzo, ma Vespa l'avete visto? Ma, ho capito, come Vespa gli ha dato poco spazio, non lo so, avranno tagliato ho capito, ma non è perché? Che ha fatto parlare, ma non c'è foto, nessun complotto dietro le... questa cosa qua, no, non c'è ma chi l'ha detto del complotto? Ma ne hanno parlato della cura al plasma, ne hanno parlato abbastanza. Secondo te non abbastanza? Va bene, vedremo. Cioè... Uno, due, la cosa che mi ha fatto incazzare tantissimo è stato quello che ha detto Parenzo, ok? Sì. Che per dire che speriamo che sia bravo, disse la settimana scorsa lui, che non sia come Di Bella. Cioè è andato a scomodare santo... Ho detto tutta la propaganda che si costruisce. Di Bella non è un santo manco per nulla, è un medico che non ha trovato una cura alternativa al cancro e la somatostatina non è mai stata dimostrata, ma non è questa l'occasione per discuterne, un valido rimedio contro il cancro. Non ho capito, Luca, primo, che cosa vuoi? Non ho primo capito. Elemento certo. Vabbè, aspetta un attimo. Propaganda creata da Alleanza Nazionale che cavalcò il caso di Bella. Dimmi, Luca. Vai a vederti la storia. Luca, dimmi che vuoi, dimmi. Ignorante. Allora, a parte che ignorante sarei te, tanto per vai a vedere se ho ragione o no. Aspetta, guarda, Luca, vai a vedere. Oh, ragazzi, guarda, non parliamo di cose vecchie. Luca, dimmi che cosa vuoi. Dai, dimmi. Io voglio essere giudicato sui fatti. Io la so tutta la storia e so anche Di Bella quello ma che perché diceva, dobbiamo parlare di una cosa che non ricorda nessuno, di cui non frega niente a nessuno? Maurizio da Torino. Ma i fatti, poi il dramma di questo signore ci dispiace. Maurizio da Torino. Dimmi, Maurizio, dimmi. Ciao, Pepe, senti. A proposito della grazia, ma ti dico, per non dire parole volgari, è quasi la sindrome di Stoccolma, però la colpa è delle ONU. A quel punto lì, ti dico, mandano uno sbaraglio a questi ragazzi, poi noi dobbiamo pagare tutti questi soldi. Cazzo, fai una legge in cui dici, cazzo, se ti sequestrano, sì, la colpa è tua. Guarda, molti pensano addirittura che non vadano pagati i riscatti quando vanno a finanziare organizzazioni terroristiche. C'è addirittura oggi una proposta. Cioè non, cioè, se ne parla di questa cosa qua. Se ne parla. Ma scusa, se io cioè, vado a il prezzo pagato per liberare una persona va a finanziare dei gruppi terroristici. È una cosa di cui si parla. Questo è un dramma, certo. Questo è un tema vero. Una valanga, certo. Sì. Sono consapevole che sono cazzi miei. Mi recuperano e pago i danni. Se ammazzo qualcuno, vado anche in galera. A quel punto, l'ONU. Non c'è dubbio che molte persone vanno in zone dove è possibile essere rapiti. Sì, non c'è dubbio. Questo è vero. Su questo non c'è dubbio. E secondo me controfirmare che si prenderei la responsabilità della ragazza. E se questa viene rapita, molti italiani lo pensano, molti italiani lo pensano, a prescindere dal fatto che lei si sia convertita all'Islam, eccetera, eccetera. Questo non c'è esatto. Grazie, grazie, grazie, esatto. grazie. Mi sembra che ci sia con noi Matteo Salvini. Buonasera. Buonasera, un abbraccio Ciao. Da lontano. Ciao Matteo. Ma che davvero? Ma in diretta veramente o registrato? No, ma che registrato? Vediamo se è diretta. A che ore? Vediamo. No, ma è vero che c'è davvero? Sì, perché non ci dovrebbe essere? C'è Salvini, Matteo Salvini? Ma perché non ci dovrebbe? Che ore sono? Vediamo se è vero. Matteo, che ore sono ora? Se ti do fastidio, un sacco, eh. No. Perché è clamoroso al Cibali. Che ore sono? Quello per dire ai radioascoltatori che sei veramente 7:44. 7? Più o meno 7:15. 7:15. Ho appena salutato. È vero. Imprenditori campani con cui ho finito ecco una riunione qua. Attendo di farlo con quella siciliani, però nel mentre sono amabilmente a rispondere. Bene, grazie. Con voi. Allora ti voglio chiedere una cosa: la scena di una signora ragazza bardata in quel ragazza. Modo con abiti bardata? Fai le domande fatte allora, male. Stai zitto, bardata? Non mi fai fare le domande. Allora, la scena di una ragazza bardata, vestita in un certo modo, cioè nel vestito sostanzialmente dei terroristi islamici, sì. È una scena che ti ha dato fastidio o no? Ma no, io sulla ragazza non dico niente, perché una ragazza di 24 anni che è stata rapita per 18 mesi, non oso immaginare che cosa ha passato e in quali condizioni torna a casa. Meno male. Se devo eccepire qualcosa, visto che ho fatto il ministro che si è occupato di sicurezza, l'avrei gestita diversamente dal punto di vista del governo. Avrei evitato le telecamere, avrei evitato di far girare per il mondo quelle immagini. Perché, come molti hanno notato, sono una doppia vittoria per uno dei gruppi terroristici più sanguinari che ci sia in questo momento al mondo. Cioè, pubblicità, l'avrebbe pagato il riscatto o no, lei? Da ministro dell'interno, l'avrebbe pagato il riscatto o no? Certe cose si fanno e non si dicono. Diceva quindi l'ascoltatore sì. Che... Ma guarda, la vita è semplice, sì. La vita, quindi avrebbe pagato il riscatto, a differenza degli Stati Uniti, giustamente questo le fa onore. E la valutazione non la fa Matteo Salvini o Davide Parenzo, la fanno i servizi di sicurezza. E ma noi abbiamo dei servizi però, di intelligence assolutamente. Però l'ok finale è politico, come lei ricorderà. L'ok finale è della politica. Cioè, secondo Salvini. Il blitz militare, la via migliore è il blitz militare. Evidentemente avranno valutato che non era percorribile. E quindi anche lei avrebbe pagato? Diciamo le cose chiare. Anche io, ministro dell'interno, avrei pagato. Non questo è il tema. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Ma come faccio a rispondere? Ma aspetta un attimo, posso dire la domanda è questa forse. Cioè non è uno scandalo, perché molti italiani, molte persone che ci stanno chiamando sono scandalizzate dal fatto, non è inutile nascondercelo, ne abbiamo ascoltate tante. Sono scandalizzate dal fatto che l'Italia ha dovuto sborsare 4 milioni di euro per una persona che è andata in un posto. Ed è una strozzata. Certo, aspetta, ma lascia perdere. Molti italiani pensano questo. Matteo Salvini, il problema va risolto, ma io li capisco, il problema va risolto. A monte. Mi sembra che anche l'ultimo ascoltatore parlasse del fatto che se vai in una zona a rischio come ONLUS, perché basta andare sul sito del Ministero degli Esteri adesso. Ma era in Kenya, non era in Somalia. Ma è a rischio, perché è a rischio comunque. Apri adesso il sito del Ministero degli Esteri e vai a guardare Kenya e vai a dirmi se era ti consigliano a 80 km da Briatore. Salvini, senatore Salvini, era a 80 km dal resort di Briatore in Kenya. A costruire un orfanotrofio. Terapiscono Briatore. Se Dio non voglia, perché è un amico. Secondo lei il riscatto lo paga il governo italiano? buonanotte. Ma certo che sì. La vita delle persone, degli italiani all'estero, perché secondo lei no, invece, scusi. Guardi, io ricordo che l'anonima sequestri fu sconfitta quando si bloccò il pagamento dei riscatti. Dunque bisognerebbe vietare il pagamento dei riscatti in prospettiva. Sì. Allora io sono contento che Silvia sia tornata a casa. Sì. Non oso immaginare. Sì, questo l'abbiamo detto, che è passato. In futuro, sì, per quello che mi riguarda, se tu mandi dei lavoratori o dei volontari in zona a rischio, te ne assumi civilmente, questo economicamente e penalmente le conseguenze. Cioè, se vieni avvertito dal consolato che quella è una zona a rischio e ce li mandi lo stesso, se poi viene liberata con i soldi dello Stato, quei soldi dello Stato in qualche modo devono essere restituiti. Quindi anche quei preti, quindi anche che i preti che si trovano ancora in giro ostaggio e nelle mani di qualche criminale, il messaggio è: non paghiamo il riscatto. No, no, è il futuro. Per quello che mi riguarda, da oggi in avanti, chi va, ovviamente sapendolo, se uno va in Svizzera sa che rischia, ma va in Svizzera. Se uno va in terra di terrorismo islamico, perché ricordo che i signori di Al-Shabaab hanno massacrato migliaia di persone, sono quelli che uccisero 148 studenti cristiani un giovedì santo, entrando in una scuola chiedendo: tu sai il Corano? No, boom. 148. Però sono lei dei criminali veri. Però, scusa, è chiaro che se vai in zone infestate da questi infami ti esponi a un rischio. E quindi, per quello che mi riguarda, da oggi in avanti, chiunque metta a rischio dei suoi volontari, dei suoi lavoratori, ne deve rispondere civilmente, economicamente e penalmente. Scusami, Matteo, quindi saranno fatti loro. Allora, quindi le ONG vuol dire che non andranno più. Cioè, se si rimette tutto nelle loro mani, vuol dire questo, che le ONG non avranno più strumenti per andare a fare il loro lavoro, cioè aiutarli a casa loro. No, mi interessa discutere con te di questo. Fare il tuo lavoro senza esporti a rischio certo di terroristi islamici che infestano alcune zone. Io voglio capire una cosa, se secondo te vale una, questo lo decideranno le autorità naturalmente, però molti parlano di una scorta a Silvia Romano per gli insulti ricevuti, per gli attacchi ricevuti eccetera, secondo te è una cosa esagerata? Ci sono i comitati di ordine e sicurezza che decidono questo, non sto a valutare, non sta a me, le auguro di stare tranquille, di vivere tranquilla il più a lungo possibile e spero che non venga usata da nessuna parte politica, anche perché, ripeto, uscire da 18 mesi di sequestro è qualcosa di fantastico, però penso che quel sequestro ti abbia segnato e dire che ti sei convertita liberamente alla religione islamica, quando è proprio nel nome, cioè, non di quella ci credi, religione. Non ci credi alla conversione libera, cioè quello che ha detto lei. Mi interessa poco, onestamente, auguro ogni bene a questa ragazza, però non è una scena agghiacciante, mega spot reti unificate per il fanatismo islamico, perché i rapitori per il fanatismo islamico, scusi. Beh, sì, sei riportata a casa un'italiana. No. Quando avete riportato a casa il criminale di Cesare Battisti, avete fatto uno spot a reti unificate con addirittura il ministro della difesa che si è travestito da polizia penitenziaria. Avete fatto uno spot anche lì per riportare a casa un criminale. Ma quello non c'entra nulla. Qui è normale che lo Stato le vada incontro, però è normale che il Presidente del Consiglio vada ad accogliere una persona che è ritornata in Italia. Avrebbe potuto tutto qua farlo riservatamente senza far vedere in diretta, ma sì, ma che il fanatismo islamico ha raggiunto il suo obiettivo. Battisti era un criminale che tornava dopo 35 anni nelle patrie galere. E quindi andava ammanettato in pubblico. Vabbè, quello è un altro discorso. Sì. Però Silvia Romano, quindi andava ammanettato in pubblico violando il suo diritto. Vabbè, comunque, lascia perdere adesso, non torniamo su questa cosa. Scusami. Il diritto di un assassino, per quello che mi riguarda. Ah, quindi non ha diritti. Un criminale non ha diritti. Scusami. Sì, io mi interesso del fatto che un criminale ha comunque diritti. Uno non va sputtanato, è stato condannato all'ergastolo perché ha la sua dignità, ha comunque una dignità. Salvini, in pubblico, ha comunque la sua dignità di detenuto, cioè la dignità del detenuto. posso chiedere una cosa? Posso chiedere una cosa? Lo Stato di diritto, noi siamo migliori di loro. Posso chiedere una cosa? Noi siamo migliori. Posso chiedere una cosa? Ha ragione Sallusti. Scusami, Matteo. Fare polemica a tutti i costi, però insultare il buon senso di chi ti ascolta, no. Posso chiedere a Salvini una cosa? Posso dire che mi fa schifo uno ammanettato. Va bene, d'accordo, una roba successa due anni fa. Chi se ne frega? Posso chiedere a Salvini una cosa? Allora, Sallusti dice: voglio sapere se gli dai ragione o no, che presentarsi con quell'abito da islamico, da islamica naturalmente, è come se uno scappato, diciamo, se una persona, diciamo, sfuggita ai campi di concentramento si presentasse davanti alle telecamere con una divisa da nazista. No, ma non, ti ripeto, una ragazza di 24 anni che ha sofferto quello che ha sofferto deve essere lasciata in pace, punto. Ma se accadesse a tua figlia di convertirsi, cosa faresti? Ma a parte il fatto che i miei figli sono liberi di vivere come vogliono, sposare chi vogliono e credere. Dunque la conversione all'Islam, di per sé non la trovi uno scandalo. Io ritengo che l'Islam sia una religione fanatica. Punto. Beh, non l'Islam, ognuno nella sua vita in quanto fa quello Islam. Che vuole. Non no, l'Islam, i fondamentalisti islamici. Il Kenya, dove Silvia è andata a far volontariato, sì. A proposito dei sostenitori dei diritti umani, eccetera, eccetera, prevede la galera per gli omosessuali. Sì, e sì, prevede certo, la poligamia. Sì, perfetto, certo. Mi dite che è normale? No, ma è normale. Assolutamente. No. Decine di paesi islamici prevedono la galera. Dunque Silvia Romano dovrebbe sapere che si è convertita a una religione fanatica, una religione di fanatismo. Di Silvia, a cui da italiano e da milanese va solo la mia solidarietà. Sono gli stati quelli, non l'Islam. Sono alcuni stati che applicano l'Islam in quel modo. Non è l'Islam. Vabbè, è una discussione un po' lunga. No, beh, sì, capisco, però è una distinzione. Che la religione islamica sia incompatibile coi valori e le libertà faticosamente conquistate nelle nostre civiltà, mi pare. Posso ritenerlo. E quindi il milione di islamici che vivono in Italia sono incompatibili con le nostre tradizioni, con le nostre culture, no, forse? Rispettano le nostre leggi, per carità di Dio. E mi pare che lo facciano. Sì, ma per fortuna, perché se applicassero la legge islamica in casa nostra saremmo quella militari. Quello appartiene ad alcuni stati non democratici. Però, e infatti quello appartiene agli italiani, a alcuni stati ci sono non tanti italiani che sono ci sono tanti italiani che di fronte al fatto che si siano pagati 4 milioni e poi si siano trovati in televisione ancora. una persona diciamo vestita da islamica con gli stessi vestiti dei terroristi islamici. Ma il senatore ha dato quella si veste come le felpe, una che cazzo vuoi fare uguale, le felpe con i vestiti dei terroristi? Uno sarà libero di vestirsi come. Ma che terrori? Uno sarà libero di vestirsi come gli pare o no? Poi dovremmo vedere perché si è messa quel vestito. Ma perché criticarla? Vabbè, intanto qualcuno, è tornata. Qualcuno pensa ripeto sia che la responsabilità non è di una ragazza di 24 anni, ma semmai è di un governo che poteva fare in maniera molto più sobria, coperta. Cioè doveva farla svestire? Doveva farla svestire, per esempio? Cioè, ma che svestire? Potevano farla arrivare senza le telecamere in mezzo mondo. In modo tale che non ci fosse qualcuno in Somalia o in Kenya che oltre che aver incassato soldi incassasse pure l'approvazione di qualcuno che tornava nel suo paese dicendo viva l'Islam e mi hanno quindi pure lei dice bene. Niente telecamere all'aeroporto, vabbè, voi che avete trasformato tutto in una diretta continua. Sgarbi dice addirittura che va arrestata. Scusa adesso Parenzo, c'è un limite a tutto. Beh, ci conosciamo da tanti anni. Avete trasformato il vostro governo giallo-verde in una diretta continua? Però, sì, per carità, certo. Paragonare il rientro di Silvia Romano al rientro di un delinquente assassino come Battisti è semplicemente folle e surreale. No, io ho criticato su Battisti le modalità che avete utilizzato a favore di telecamera per il rientro di quel criminale, esibendo l'ostaggio, esibendo il criminale. Festeggiare il rientro in Italia di un terrorista che si è fatto vacanza per 30 anni alla faccia del familiare delle vittime, quello andava mostrato a tutto violando il mondo. Violando la sua dignità di detenuto? Vabbè, quello è un altro anche discorso. Questo valeva la pena? Io è questo che contesto. Va bene. Uno che ammazza quattro persone, direi. Per quello che mi riguarda la dignità l'ha persa da morte. Scusami, volevo capire una cosa. Sgarbi sostiene addirittura che Silvia Romano, ma abbiamo capito che tu non vuoi dire nulla sulla persona, va arrestata per concorso esterno. Cioè, se sì... Ma figurati, dai. Cioè, sì. Che ne so, sarà una provocazione. Sarà una provocazione, però è così. Lasciamo in pace questa ragazza. Ecco, diciamo che appunto. Spero che non si dica domani mattina come fecero altre liberate in passato non vedo l'ora di tornare. Beh, ha detto che vuole tornare, ha detto che vuole tornare in Kenya, almeno da quello che sembra, che vuole tornare in Kenya. Cioè, ma aiutiamoli a casa loro, ma, no? Ma le andrebbe impedito, una, no? Una persona che lo fa, aiutiamoli a casa loro. Lei lo fa. Cioè, lo Stato potrebbe consentire, ragazzi, che ne so, ci che sono 6.000 militari italiani nel mondo stasera che fanno servizio, Se passa l'idea, certo, che chiunque venga rapito si becca alcuni milioni di euro di riscatto, è finita per i lavoratori italiani all'estero. Quindi stiamo molto attenti. Stiamo molto attenti. Qualcuno vuole vietare i riscatti? C'è un deputato di Fratelli d'Italia. Vuole fare una legge per vietare i riscatti in caso in cui i soldi vadano a finanziare organizzazioni terroristiche. Tu saresti d'accordo con una cosa del genere? Ma io ripeto, in passato in Italia, e non in Kenya o in Somalia, i sequestri si sconfissero evitando il pagamento dei riscatti con una norma che io assolutamente condivido. Però non puoi farla retroattiva. Se c'è qualcuno ovviamente che sta correndo rischio di vita adesso, va fatto tutto il possibile per salvarlo. Da domani in avanti, per quello che mi riguarda, se vai in zona rischio, te ne assumi tutte le conseguenze. Bene, grazie, ciao, ciao, presto, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao. La Zanzara. Salvini, ma lei fa i bocchini. David! Io potevo essere stipendiata. Nonna, hai visto che hanno levato pure le mignotte per strada, no? E come mai? Perché in questo periodo pure una stretta di mano è contagiosa. Figurati una stretta di cazzo. Cosa? Eccolo! L'Africa manca di tecnici, in compenso è ricca di africani che sanno fare un mucchio di lavori, senza il minimo problema, sicuramente meglio dell'europeo perché loro conoscono il posto. Quindi se siete capaci di amputare un altro, se siete capaci di seguire un parto, se siete capaci di scavare un pozzo, se siete medici, chirurghi, ostetriche, veterinari o ingegneri, allora se andate nel terzo mondo siete dei soccorritori. Se non sapete fare nessuna di queste cose siete sciacquine. Individui a competenza zero che se ne vanno per il mondo convinti che il mondo sia il loro posto Erasmus, con il loro zainetto e il cellulare per farsi il selfie, perché se non avete competenze, l'unico motivo per cui andate in terra d'Africa è il selfie col bimbo africano. La sciacquina che se ne va in giro per il mondo comincia a avere chiaro in mente che se le cose vanno male il popolo italiano non le pagherà la vacanza studio. Inoltre, questo fiume di denaro che è tolto al popolo italiano vuol dire bambini che moriranno di leucemia perché mal curati, persone che moriranno di ustioni perché mancano in molti posti del sud i centri antiustionati. Col denaro di questi riscatti, della sciacquina di turno, che deve andare in Africa, oppure in Iraq, oppure in Siria, a portare la sua clamorosa incompetenza, abbiamo finanziato il terrorismo. Quante chiese con i cristiani dentro saranno fatte saltare grazie all'esplosivo comprato per queste persone? Io ho salvato la mia, certo, grazie a quel denaro moriranno in Africa almeno 500.000 africani, ma tanto a te cosa te ne importa? L'importante è che tu hai salvato la tua. Per cui, sciacquine, statevene a casa. Non sapete amputare un altro, non sapete seguire un parto, non sapete scavare un pozzo. Non siete inutili, siete dannosi. State a casa. Chi era quel cretino di poc'anzi? La professoressa Silvana De Mari, caro Parenzo, la professoressa. Io mi auguro che qualcuno della famiglia Silvana Romano sia all'ascolto. Ancora con si faccia storia, dare, palle, non da noi però, perché non l'ha detto da noi, si faccia dare l'integrale di queste, di questo. Ma perché devi e porti via tutto questa dottoressa, questa esimia dottoressa, che non vorrei dire dottoressa di che cosa, sai come si cantava una volta? Dottore, dottore, dottore, dottore, dottore del buco. questo si cantava a Padova, all'università, questo si cantava. Sì. Vorrei che alla esimia dottoressa la famiglia Romano portasse via tutto e finalmente si costruisse una meravigliosa casa ai Navigli, meravigliosa, oppure a San Babila, un bellissimo attico a San Babila, pagato con i soldi di questa qua, che la chiama Sciacquetta. Perché te lo dico io, fossi nella famiglia Romano, chiederei immediatamente il sequestro del nastro. Chiederei immediatamente. Non emesso da questa stazione radiofonica, bensì dal sito Facebook della signora. È già collaboratrice del quotidiano La Verità, giusto per inquadrare il personaggio. Ancora collaboratrice. Nello stesso giornale nel quale scrive un altro autorevolissimo signore che si chiama Capezzone. Diciamole tutte le cose. Diciamoli tutti i columnist di quell'autorevolissimo quotidiano. Francesco Borgonovo. Oh, come non parlare di Borgonovo, certo, l'altra difesa della razza. E allora direi alla famiglia Romano, andate a vedere chi è, fate sbobinare dal vostro avvocato l'intero audio di questa signora. Perché devi consigliare? E poi vi comprate un meraviglioso attico a San Babila, tribunali, sopra casa della famiglia Moratti. Ti piacciono gli avvocati? Andate a abitare lì no, mi sempre piacciono le famiglie gli degli avvocati di Padova. Padova è pieno di avvocati, Stai zitto, non farmi parlare. Non farmi parlare perché su questo faccio chiarezza. Non farmi parlare, non stimolarmi sugli avvocati, sui figli degli avvocati. Non mi stimolare. Ma tu sei figlio di un avvocato. E dico tu. No, non mi stimolare perché guarda, mi hai acceso una lucina in testa. Cosa? Non mi far parlare impazzito, sui figli dai. Degli avvocati. No, non farmi parlare. Non farmi andare oltre perché potrei dire molto io sui figli degli avvocati. Perché ho saputo delle cose e potrei parlare su Padova, sui figli degli avvocati e non solo figli. Potrei parlare per ore. Non mi far parlare. Ti dico perché solo di non mi far parlare. Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. Ancora con sta commercialista. Commercialista Pina Pitone. David. Che c'è? Scusate, volevo un commento da parte di David sul nuovo libro di Mario Giordano che è appena uscito, che si intitola Sciacalli. Sciacalli. Perché come voi ricorderete, attentissimi redattori, capi redattori, autori della Zanzara, Sciacalli fu un titolo che io diedi già anni fa, quando parlavo di Sciacalli, lui se l'è segnato. Quindi una parte dei ricavi di quel libro dovrebbe, se fosse un signore, dovrebbero andare a me, una parte dei ricavi. Comunque sei veramente un coglione, guarda. Comunque, sui figli e le figlie degli avvocati, per quanto mi riguarda, nei prossimi giorni ne parleremo, se tu vuoi. Sei tu che mi porti su questo terreno. Ma io non c'entro un cazzo. Le carte, io ho le carte in mano. Quindi lascia stare. Io conosco dei bravissimi avvocati a Padova, e non è soltanto la mia famiglia, se no farei bucciare la mia famiglia. Conosco un altro bravissimo avvocato che potrebbe occuparsi di questo caso. Diritti della famiglia Romano. E quindi io faccio un appello a quest'altra famiglia di avvocati, loro sanno di chi parlo, perché difendono la famiglia Romano. Io faccio questa, sarebbe la legge del contrappasso. Guarda, ci vogliono i penalisti. Bocca taci perché potrei dire troppo. Ti prego, cambia pagina. No, io te lo dico per te. Potrei parlare, lascia stare. Comunque ragazzi, la cosa fondamentale è un'altra. No, adesso mi stai facendo ridere, non riesco lascia più stare, che dai. Freccero ha in testa, non farmi parlare. Che Freccero ha in testa, secondo me, fra poco ci collegheremo, un grandissimo format, perché è stato fatto troppo poco in aeroporto, in realtà. In aeroporto è stato fatto troppo poco. Ma dai, cioè, quelle inquadrature così, eccetera, c'è la conversione doveva essere sfruttata meglio. C'è la conversione di una ragazza, andava sfruttata meglio direttamente con i rapitori lì, cioè è chiaro, no Carlo? Debolissimo, naturalmente ne ho parlato anche ieri alla Rai, inquadrature mise, pochi minuti che ci inquadra l'aereo che si apre, ecco che scendono, dai, ma questa cosa qui, io voglio dire naturalmente, ma dentro l'aereo non c'erano delle telecamere naturalmente? Come mai? Gravissimo che la Rai non abbia messo tutte delle telecamere all'interno di quell'aereo. aereo meraviglioso e fare tutto il viaggio del ritorno, il dramma. Io non ho immagini di quando, ad esempio, naturalmente l'hanno salvata, naturalmente. Il conflitto a fuoco, naturalmente, non si vede. Non c'è come stato. Mai? Dai, non c'è stato. Dai, debole allora, debole, non funziona la storia. È liberata così. Dai, ma no. Tu dici il passaggio di denaro, almeno il passaggio di denaro. Dai, almeno quello, ma anche un piccolo conflitto. Non c'è il conflitto, ma almeno a favore di telecamera uno sparo in aria, almeno fallo. Dai, che sennò è debole. Su, ma devo scrivere tutto e io. E la conversione non ha suggerito niente sulla conversione. Naturalmente diventa tutto un altro atto, naturalmente, da seguire da oggi ai prossimi giorni, tutta la conversione di questa ragazza, naturalmente, il perché, per come. La telecamera che la deve seguire fin dentro casa, naturalmente, il dramma di questa famiglia che la ritrova convertita, lei che prima era cattolica, tutto va raccontato. Adesso dicono bisogna fare il silenzio, ma quale silenzio? La televisione è sempre accesa, quale silenzio? Dai, finalmente c'è una storia. Sostituite Brusaferro con lei, almeno, che dice i dati del Covid. Questo. E io farei così per creare un po' di scompiglio. Direi, cioè, caro Brusaferro, via. E mettiamo naturalmente Aisha, naturalmente, che legge i dati. Dai, funzionerebbe naturalmente. Dai. Per risollevare lo share. Per risolvere lo share di quelle conferenze stampa in cui dicono i dati, mettere Aisha al posto di Brusaferro. Questo devo anche dire. Lei inizia naturalmente a ragionare come me, naturalmente. Sì, in questo momento l'attenzione mediatica è tutta per questa ragazza. Tutti si chiedono: sarà islamica, non sarà islamica, cosa ha provato? Tutta l'attenzione. Improvvisamente Brusaferro è sparito, naturalmente. Allora io dico: come si fa a risollevare una fascia d'ascolto debolissima con questi virologi che non ascolta più nessuno? Naturalmente portando l'islamica convertita, naturalmente, a leggere questi dati, naturalmente. In televisione nulla c'entra con nulla. Dai, cortocircuito, dai, è l'effetto sorpresa, si chiama in televisione. Devo insegnarvi tutto, non avete creatività. Non avete creatività. Cioè, questo è vero, portare con io dico finalmente, esatto, finalmente abbiamo un grande personaggio, naturalmente, che è stata liberata. L'abbiamo pagata anche molto cara, 4 milioni, mi pare, naturalmente. Costa più di X Factor, naturalmente, dai, più di Young Pope, naturalmente, costa carissimo, dai, io darei tutto in mano a una società di produzione, a Fremantle Media, non lo so, creerei un grande evento, un media event. La prima cosa sarebbe quella di metterla al posto di 4 milioni, sì. 4 milioni, voi sapete quanto costa una trasmissione televisiva al minuto, naturalmente, sì. Dai, bisogna rientrare nei soldi, nel denaro pubblico, dai, metterla a condurre un programma, subito. No, 4 milioni è costato, dai, ma neanche X Factor, ma di che parliamo? Dai, però per X Factor un milione per cominciare, a puntata, per cominciare Brusaferro, mettiamolo subito lì, così così lo share potrebbe. E potremmo naturalmente portare in Kenya Brusaferro, naturalmente, creare una specie di piccolo cortocircuito, di nuova storia, naturalmente. Deportare, cosa accadrà a Brusaferro in Kenya? No, deportare no, naturalmente, portarlo, naturalmente. Però questo qui farebbe molto ascolto. Due racconti che si incrociano, naturalmente. Cioè, Aisha al posto di Brusaferro e Brusaferro, certo, in Kenya. Sliding Doors è antico come Shakespeare, dai, che non sapete niente di letteratura e di televisione, dai. Parenzo, vieni da Frecciaro, è meglio di un pompino della mia ragazza. Questa cosa qui, ogni volta mi dà in realtà un colpo al cuore, cioè non è che mi dà gioia, mi dispiace. Adrian D'Arezzo, ce ne siamo comunque detti, torniamo tutti sugli avvocati, ce di ne siamo Padova, detti, eh. No, basta, hai aperto un Adrian D'Arezzo, c'ho delle cartuccelle io. Dai. Lì da Padova, chi sta sentendo, dai, capirà. Ho delle cartuccelle, sai, le cartuccelle, ma non è nessuna carta. Le cartuccelle, dai, Adrian D'Arezzo, le carte. Porca, che carte, Adrian, dimmi. Dimmi. Cruciani, sono Adriano. Dai. Adriano, dimmi. Cruciani. Dimmi. Mi aspettavo di vedere una ragazza magra. Ancora, ha mangiato adesso. Ma che ha mangiato? Cosa ha mangiato? Avete visto come era ingrassata? Sembrava quelli che sono scappati 2 anni fa. Uguali, tutti ingrassati. Con questo vestito sembrava incinta. Vabbè, questo l'abbiamo già detto, l'abbiamo già sviscerato. Pare di no. Lui sostiene che no. Adesso, ragazzi, non è che uno sequestrato, pare che sia stato stata trattata bene, lo ha detto anche lei, no. Sono stata trattata bene. Non bene, ha pianto per un mese. Ma non lo so questo, ha pianto per un mese, sicuramente ha pianto per un mese, lo ha detto lei che è stata trattata bene, non l'ho detto io, insiste ancora. Dai, forza con queste cartuccelle. Adriano, dimmi. Sono rimasto male, poveri questi agenti segreti, tutti vestiti di nero, così così, lei scende tutta vestita così, tutta... Vabbè, Walter da Trieste, rotti i coglioni, dai, Walter da Trieste. Sono qui, ciao Gruppo. Dimmi Walter, dimmi. Senti, volevo ricordare a Parezzo che è vero che Israele, a cui va tutta la mia incondizionata stima e ammirazione, porta a casa anche i morti. Anche i morti riporta con le armi, non con la valigia dei soldi. Anche, non solo, alle volte è stata costretto a pagare. A Entebbe grandioso, certo. Sono andati. Bravo, Entebbe grandioso. Guardate, posso armati, dirvi una cosa? Certo, posso certo, dire una cosa? Certo. Chi più chi meno, chi con scambi, alcuni non lo dicono sotto banco, in alcuni casi, non in tutti, anche i paesi pagano tutti alla fine. Cioè, un po' si paga. Quando si vuole qualcosa, un po' si deve pagare. Magari non si paga il riscatto che paghiamo noi, 4 milioni a un gruppo terroristico, magari si fanno un altro tipo di operazioni. Ma in qualche modo, se uno vuole ottenere un risultato, lo si paga. Turchia, perché lei aveva fermi il giubbotto tutti, fermi antiproiettile turco? Perché hanno collaborato con i servizi segreti turchi, ragazzi, adesso non è che stiamo qua a coso, però non è questo, non è Secret, non è, come si chiama quella trasmissione una volta condotta da Bracchino, ti ricordi? Bracchino, grande talento, sì, grande dai, talento, bravo Bracchino, dai che funziona. La Zanzara. Devo vedere un po', devo cercare di avvisare qualcuno, dire per cortesia chiudete le assi merdose, togliere un po' di merda dall'Italia, chiudono sta trasmissione del cazzo, tu e quell'altro frocioli, quel nano del cazzo. Questi demo che fanno la musica rap, trap, trap, trap, una razza aperta, che cazzo ti fa rumare di coccio, prima era musica, era melodia, musica rap, trap, trap, trap, trap, 2020, anno bisesto, anno smesso. Giro in ma, gira a caso, gira cose, Rubens Sosa, bruciamo fiori, non rose cose, mamma stai tranqui, è una mamma sosa, perda fre, nuova me, sogni me. E che cos'è? Nell'età, fazzo le, mai pia, fai una se, blow job, nuova squad, mai una job, mai una job. State ascoltando musica giovane. La Zanzara. Mischia bene, basta shine, fai una se, taglia le, si rompia e basta il fragiro il ma. Cinque col fra che già giro pia, tipo quel tipo di tipa fra, tipo col tipo di tipa fra, tipo ario contra fra, tipo quel tipo che è il tipo di tipo da tipa del tipo fra. Prima era musica, era melodia, passione. Via! Da questo canale! Amo quanto mi ami! Dillo a tutto il mondo! Tutta la vita! Ho denunciato Conte, non so se ha detto comunicato stampa. Pure tu che hai denunciato Conte. Io ho denunciato Conte perché Italia sono 60 Conte. Giorni sto a casa. No, è possibilissimo. Madonna. Pietro da Torino mi sembra che ci sia. Pietro da Torino, Pietro Pietruzzo, dimmi. Ciao Crux, ciao Parenzo, ciao un Parenzo. Lo sai, ciao. Luciani, tu che hai toccato il fondo. In che senso, amico mio? Hai toccato il fondo dando ragione a Sallusti, difendendo Libero. C'è questa ragazza no, allora, da 18 calma. Mesi. Ma cosa c'è? Voi insistete ancora su sta roba qua? Ma che cazzo vuol dire? Ma che volete tarpare la libertà di espressione delle persone? Uno è stato prigioniero per 18 mesi e non si può parlare di quello che avviene in pubblico. Ma che cazzo volete? Questa ragazza, non so se non ci va un trattato di psicologia, non bisogna essere. Ma non lo sa nessuno perché si è convertita. Però ci sono le sue parole, mi sono. Ma lo dite voi, mi sono convertita spontaneamente. Lo ha detto lei. Lo ha detto lei. Non mi interessa il resto. Ma è stata appena liberata da 48 ore. Allora lo sai tu, lo vuoi sapere tu perché si è convertita più di lei. Quello ha detto pubblicamente. Ma non lo sanno neanche quelli di Libero. Ma il punto non è quello, il punto non è questo. La, come, la sua conversione, che fastidio ti dà? Ma non mi dà nessun fastidio, ma a me non mi danno nessun, ognuno può, può allora convertirsi pure al cruscianesimo, al, al parenzismo, al pastafarismo, che me ne frega, a me uno si può convertire a quello che vuole, a me non me ne frega niente della conversione. Hai toccato il fondo, mi dispiace, toccato il fondo. Ma su che cosa ho toccato il fondo? Non ho capito. Non si può arrivare a livelli così bassi. I gesti, ma che bassi, non rompere il cazzo, i gesti sono importanti. I gesti sono importanti, non sono, non so se li ha scelti. Ma è stata 18 mesi. Ma cosa vuol dire? Io ho dato ragione a Sallusti perché ci sta il paragone. Uno esce dalla prigionia, ebreo esce dalla prigionia di Auschwitz, e invece di presentarsi in abiti civili, si presenta con gli stessi abiti dei carcerieri. La stessa cosa ha fatto questa signorina. La stessa cosa. Ma non la sto accusando, è così, è così. Ma gli abiti erano quelli di Shishabab, come cazzo si chiama quel gruppo? È incredibile, guarda. Ti affidi anche alla, ma cosa c'entra? Ma quelli sono stati anni nei campi di concentramento. Ma che dici, nessuno è stato prigioniero? Che stai dicendo? No, dice lei è stata prigioniera. Diceva di rimettersi. Ma scusa, amico mio, quegli abiti lì sono quelli di Shabab? Sì, la risposta è sì, oggettivamente. Ma, è così. Ma lo sai che Primo Levi ha scritto? Ma cosa c'è? Ma perché vai a parare altrove? Attieniti a quello che ha fatto Sallusti. Attieniti a quello che è successo. È successo che una si è presentata, una signorina che ha tutta la mia, come dire, la tua mia vicinanza, perché è stata, ha passato sicuramente dei giorni terribili, si è presentata di fronte alle telecamere con un vestito che è quello dei terroristi che l'hanno sequestrata per 18 mesi, ok? Allora, non è così. Lei questo... è una civile che si è convertita nel caso. Poi e ha indossato gli stessi abiti dei suoi carcerieri, è vero o no? Non è vero. Molto probabilmente ha empatizzato col loro, ma questo non è vero. Allora questo vuoi negare la realtà. Vuole negare la realtà. Colpa quell'abito. Ma non ho detto che una colpa, è un fatto colpa, no, che quell'abito. È pazzesco, guarda, ma è pazzesco. In questo momento chi se ne frega? È pazzesco. Dobbiamo dire di sì a tutto. Adesso facciamo pure cosa? Vuoi che faccio pure la preghiera? Mi metto qui a fare il Ramadan. Che cosa vuoi che faccia? Vuoi che faccio Inshallah. Cosa vuoi che faccia? Che mi metto qui a fare così, mi metto qui a fare Allahu Akbar. Che cosa devo fare? Dimmi. Cosa, non sto insultando nessuno. Allahu Akbar. Facciamo così, almeno siete contenti. Ma nessuno ti chiede di fare così, perché devi pronunciare il nome di Dio in vano per loro, che è una roba sacra. Pupi D'Angeli con noi, grande ambasciatore. Ecco, ci mancava pure Pupi, ci mancava pure D'Angeli. Non viva il signor Pupi. Ecco, allora. Si poteva pagare con i soldi di Pupi. Quando parla, ma io gli voglio bene. Quando parla Pupi, silenzio, perché è una persona che ha trattato. Posso dire che voglio bene a Pupi D'Angeli? Posso dire con ironia? Io voglio bene a Pupi D'Angeli, davvero, gli voglio bene. Allora, l'ambasciatore non solo è stato esperto di queste cose, perché ha trattato anche lui nel passato queste cose qui. Ha pagato chissà quanti soldi. E per cui di queste cose, diciamo, che era un mezzo terrorista anche lui, possiamo dircelo chiaramente. Comunque, adesso non andiamo al passato, perché Pupi è stato amico di Arafat. Non andiamo a stato capo dei negoziatori di Yasser Arafat, pertanto qualcosina diciamo, mettiamo così. Ora mi sembra di capire di un terrorista, mi sembra di capire Pupi che tu sei abbastanza incazzato per quello che è successo, per il fatto che noi abbiamo finanziato. Incazzato io sono, credo che sia stata fatta un'offesa, questo è interessante, soprattutto ai militari che combattono contro il terrorismo. Perché questa è una vittoria dei gruppi terroristi di Al-Shabaab. Giusto. Perché vorrei essere preciso. La signorina allora, Silvia Romano, dal cuore d'oro andava ad aiutare i bambini in Kenya. Poi dopo costruire un orfanotrofio. A costruire un orfanotrofio in Kenya, dove vanno tanti italiani a fare un turismo ricco. Pertanto io mi tolgo tanto di cappello per la prima fase di Silvia. Sì. Perché è andato ad aiutare i bambini, è una donna straordinaria. Sì. Purtroppo ha avuto questo rapimento, dove poi è stata venduta ad Al-Shabaab. Sì. Però dopo è scattato un qualche cosa, perché voi dovete sapere una cosa, che il Corano, uno si fa arabo, abbraccia la religione araba, una donna soprattutto, per sposare l'uomo che lei ama, ma sicuramente là ha una relazione, questo ne siamo certi, no? Cioè, tu puoi dirci che secondo te ha una relazione con qualcuno? No, sicuro, perché se no non potrebbe essere così. Sembrava, quando è scesa dall'aereo, sembrava Sofia Loren quando è scesa la prima volta a Capo. Ma figuriamoci. Ma figuriamoci. Beh, no? Non parlare, non l'impressione, l'impressione dell'ambasciatore di una persona dopo ma quale ambasciatore? La gioia di una donna, di una ragazza dopo 5 anni. Che puoi mettere in dubbio che sia ambasciatore? Mi scusi, ambasciatore adesso. No, ambasciatore dice le cose. Ma sì, va benissimo, ambasciatore con 50 macchine. Lei sa che cosa vuol dire essere rapidità o terroristico? No, ma per carità di Dio, fate una cosa terribile. Tanto lei non sa che cosa vuol dire. Perché lei è stato mai rapito da un gruppo terroristico? Ma però ne sai, è stato accanto agli esseri fatti. Questa signora che organizzava i rapimenti, infatti. È uscita che è una meraviglia, capisce? E dunque, secondo te, non è attenzione, perché tu hai arrivato alla conclusione, caro Pupi, che secondo te non era in prigionia? No, lei non è stata acquistata, sì. Perché e poi dopo non era stata più in prigionia. Anzi, lei è una signora dalle uova d'oro. Perché ha portato in dote 4 milioni di euro a chi? Al gruppo terroristico? Cosa vuol dire? Chi ha pagato? Scusi. No, finisca, mi interessa, scusi, finisca il ragionamento che poi voglio fare una domanda. Tutto quello che vuole. Lei è una, per Al-Shabaab, è una donna straordinaria, perché? Come tutte le persone rapite. Aspetta. Tutte le persone rapite sono un'assicurazione per i malviventi. Certo. Ma però, perché sono stati offesi i militari, secondo te, Pupi? Non ho capito. Perché lei è scesa con vestita prettamente da araba e dicendo: io mi sono convertita all'islamismo. Attenzione, che il parroco, che prima che fosse andata via lei si era confessata, il parroco ha parlato per televisione e così via. E cosa succede? Qui negli Stati Uniti, dove sono io, c'è il disastro, cioè dicono: ma sono tutti pazzi qua. Poi dopo un'altra cosa, la vittoria, perché voi sapete la storia dei Marò, perché c'erano i Marò sulla nave? Perché, no, aspetta, è importante, perché devono passare il mare di fronte alla Somalia e mettono i Marò per difendere dai terroristi somali, o sbaglio? Certo, a questo punto, certo. Giusto, la signorina si è trovata così bene, ma io sono felice per lei, che lei è diventata una fonte di guadagno in più, una moglie. Lei non è mai stata rapita da loro, è stata per i primi giorni, poi è stata rilassata là. Ma questo lo sai perché lo sai da fonti tue, oppure perché è una tua intuizione? Non è solo una mia intuizione. Non è solo una sua intuizione. Una esatto. Tua intuizione. Quindi lei da quindi ha lei notizie che alla fine lei non è stata rapita. No, che è stata rapita. Ma portata in Somalia, sì? Poi è scattato l'amore. Cosa che può succedere? Scusami Pupi, però posso dirti una cosa, la scena dell'arrivo all'aeroporto. Allora perché è ritornata? Non ho capito perché è tornata in Italia allora. A un certo punto, ma perché? Perché per incassare. Normalmente. Dice anche per far incassare. Quindi lei sarebbe in base a questa fantomatica ricostruzione. Il padre addirittura si è inchinato di fronte a questa meraviglia che ha ricordato la sua. Ma si è inchinato perché è il padre con la figlia che è tornata dopo 535 giorni? Ma che vuol dire si è inchinato? Secondo lei, ma al posto di inchinarsi. Perché un padre non si può inchinare. Ma chi gliene frega lei? Ma guarda, questo è incredibile. Signor D'Angeli, professor D'Angeli, ma che vuol dire che il padre non si può inchinare alla figlia? È un gesto elegante anche. Cos'è, di sudditanza all'Islam il padre che si inchina alla figlia? Beh, senta, lei ha figli? Ma certo, ne ho tre, un quarto in arrivo, certo. Sono contento per lei, vorrei vedere se sua figlia tornasse congiata così. Ma io la abbraccerei, ma che vuol dire? Ma non lo so. La abbraccerei. Ma tu no. Ma la abbraccerei, quell'altro la si è inchinato, ma adesso facciamo anche il processo al padre che si è inchinato. È convinta musulmana, lo capisce o no? Ma intanto c'è la figlia che è tornata, ci sarà la gioia del padre che è felice della figlia che è tornata. Fermi tutti, che torniamo un attimo con l'ambasciatore, fermi tutti, per un altro paio di domande. Aspetta Pupi, aspetti un attimo, c'è la pubblicità, aspetta. La Zanzara. Sono i gay. A me di sta cooperante che stanno rapito, che siamo lui a liberare, me ne può fregare di meno, perché se tu vai a far cooperante nei paesi a rischio, vai a rischio tuo, non vai poi condizionare la vita al ministro degli esteri, al presidente del consiglio, noi che pagiamo il riscatto. Se vai a fare cooperante vai per cazzi tua e i cozzi li sostiene la tua famiglia se te li vuole a casa, se no vai al fanculo, chiaro? Signor Bracconeri, signor Fabrizio, ci mancava in questa carrellata di follie, ci mancava. Però siamo qui con l'ambasciatore Pupi D'Angeli che ci ha dato una sua visione di questa visione di questo fatto del rapimento di Silvio Romano e della sua liberazione. La palestiana, perché voglio spiegare, io vorrei sapere il protocollo del Ministero degli Esteri italiano. Io poi le faccio un esempio che è molto più chiaro. Come mai non gli ho detto togliti questa cosa dalla testa e vieni giù così? Perché non è stato fatto? Perché lei probabilmente sta facendo una vera e propria propaganda all'Islam. Spiego questo. Cioè, Silvio Romano sta facendo lei propaganda all'Islam, al gruppo terroristico che l'ha tenuta prigioniera. Le spiego anche il perché, dottor Parenzo. Dunque è un'ingrata da questo punto di vista. Cioè, da questo punto di vista, di che cosa lei dice questo? Io non mi permetto di dire ingrata, le spiego. Una volta c'era un ambasciatore in Italia molto bravo che si chiamava Battani, credo che voi allora sapete. Sì, allora? Sì, come noi siamo arrivati, con Yasser Arafat, con l'aereo di Stato, via dicendo, in Italia, e Arafat portava il suo cinturone, il suo revolver, che era la divisa ufficiale. Sì, anche all'ONU la portò, purtroppo. Unico caso nella storia in cui. Vabbè, dai, ragazzi, non facciamo la storia, dai, forza. Dai. Lei mi fa parlare. Dai. L'ambasciatore Battani venne sull'aereo e disse: guardi, comandante, io la pregherei per cortesia di togliersi la cosa. Ha trovato una maniera alla fine che noi siamo arrivati davanti a Cossiga e Arafat gli disse: vengo coi pantaloni in mano perché l'ambasciatore mi ha fatto togliere. Cioè, secondo te qualcuno doveva far togliere l'abito islamico alla signora Assidora? Invece lei, a me dispiace per Conte e Di Maio, i quali erano in forte imbarazzo perché non vedeva che erano bloccati, perché non è di certo una bella immagine per l'Italia, infatti c'è tutta questa grande pubblicità contro a questa ragazza, perché e come domani mattina, le spiego, libereranno il padre gesuita allora? E questo viene come imam. Per lei non sarebbe un po'... No, ma è lo stesso paragone che ha fatto Sallusti quando ha detto liberano un ebreo e lui si presenta davanti alle telecamere con la divisa nazista ed è stato questo è un po' troppo, ed è stato massacrato per questo, viene massacrato, dice anche l'ambasciatore. Ma no, ma è la stessa cosa, dai, su, un po' troppo. Dai. Ma mi sembra un po' troppo questo, perché attenzione, il nazismo, razzismo. No, ma è per fare cosa? Un paragone, dai, su, un paragone, ci sta. Ci sta, dai. Io credo che invece la cosa è molto più seria, perché voi lo sapete che per la legge italiana lei farà il ricongiungimento familiare domani mattina e lui può venire qua. Ma lui chi? Non si sa ancora se c'è una relazione o no. Dite cose che non sappiamo. Il suo fidanzato, perché lei o marito, perché una donna per legge musulmana deve essere musulmana per sposarsi con un musulmano. Ma si indagherà se è vero, non sappiamo nulla, sappiamo quello che abbiamo letto solo oggi sul Corriere della Sera. Secondo sul lei, Sole 24 ore. Lui è convinto di sì, l'ambasciatore è convinto di sì. Ma lei ha notizie diverse. Ma lei ha notizie, ma anch'io, io la voglio veramente bene. Cioè, io se l'avessi davanti la abbraccerei fortissimo. La abbraccerei come si fa con i bambini in difficoltà, li si abbraccia forte per dargli sicurezza. Secondo lei era il caso di mettersi il velo così, dai, il velo, ma io non lo so, no, non discuto di questo, ma non discuto di questo, dell'abito con cui uno scende da un aereo, ma quello fa tutto, dai, da bagno, è la società dello spettacolo, la società dell'immagine, come fai a dire che non è così? Quella, dai, è stata 535 giorni nelle mani di criminali. Ciao Pupi, ciao, ti saluto. 35 è stata rapita. Dopo no, questa è la convinzione di Pupi. Ciao Pupi, ciao, ciao. Tra poco Bracconeri, ragazzi, è l'ultimo assalto della giornata. L'ultimo assalto. Roberto da Brescia prima, Roberto da... Ma sembra una puntata di Fuori dal Coro, praticamente. Salvini, Bracconeri, perché Meloni? Chiamiamo Meloni anche, scusa. Roberto da Brescia, Roberto da Brescia. Porca miseria, ragazzi. Telefonate di razzisti, mamma mia, dimmi, ragazzi. Dimmi. Una succursale del Ku Klux Klan, praticamente. Che cazzo dici, dai. Porca pupazza. Dimmi, io volevo dare retta a Parenzo. In che senso? Ha detto di chiedere il nastro della trasmissione, anch'io chiederò il nastro della trasmissione. Perché? Io sono dottore. Io sono dottore. Lui ha offeso pesantemente i dottori. Ma quando li ha offesi i dottori? Scusa, non mi risulta. Quando si è messo a cantare la canzoncina. Ah sì, vabbè, ma ho capito, ma quella la canzoncina era riferita ad un'altra cosa. Com'era la canzoncina? Era riferita a un'altra cosa quella lì. La canzoncina era riferita ai dottori. Io chiederò la trasmissione. Vabbè, ho capito, dai, non è... Sì, va bene, quella è la canzoncina che si cantava a Padova, all'università di Padova. C'era una grande tradizione goliardica, come a Bologna del resto, Padova, forse lui sa. Beh no, però a Padova in particolare si facevano i papiri. A Padova in particolare è una delle più antiche università d'Europa, quindi insomma, ma com'era la canzone, dottore? La canzone faceva così: dottore, dottore, dottore del buso, perché a Padova non è buco, in Veneto si dice il buso, no? Sì. E avanti. Vabbè, e allora? Comunque, che cosa vuole questo personaggio qua? Niente, me frega, niente, me. Cosa vuole questo qua? Dai, via, un'altra chiamata. Forza, dica qua. Sì, vabbè, dai. Ma sì, ma vada a quel paese, dai, arrivederci. Altro è Franco da Modena. Ciao, ciao Roberto. C'è Franco da Modena o no? Mi sembra che sia questo. Aspetta, di tutto la trovo. Questo parleremo con i nostri ospiti. Avremo Matteo Salvini, avremo Vittorio Felti, il professor Giorgia Galli, Meloni. Braconeri, chiamiamo Braconeri, vai. Pronto? Fabrizio! Sì? Beh, amico mio, avanti tutta. Come andiamo? Sei incazzato nero? Sei incazzato nero? Mi sembra che sei incazzato nero. Mi sembra di capire che sei appena hai visto, appena hai visto quella figura scendere dall'aereo, bardata da islamica. Una bestia. Sei diventato una bestia. L'avrei fatta salire a calcio in culo sull'aereo e riportata dove stava. Ah, subito così. Ma come si permette? Ma che animale sei? Ma come ti permetti, animale che non sei, dopo 18 mesi di prigionia, mali mortacci, ma come ti permetti, ma come ti permetti, animale, ecco l'altra strozzata, ecco l'altra strozzata, ecco l'altra strozzata, a parte che i nazisti erano ultracattolici, a parte che Hitler era ultracattolico, quindi... Se possiamo fare un discorso, dimmi. Che discorso vuoi fare? Hai appena detto che la rimanderesti a calci nel sedere, ma che discorso vuoi fare, animale? L'unica cosa che sai dire è questa. Appunto, allora, animale, che ti devo dire? Sei un animale, spiegami. Sì, sono animale. Ora ti spiego una cosa. La ONG di Fano, che ha mandato questa ragazza in Kenya, ti deve assumere la responsabilità di quello che fa. Perché queste ONG che decidono di... Ma non solo l'ONG. Di fare del bene. Chi va a fare le cose, scusami, pure chi va a fare le cose estreme, tipo il viaggio in Himalaya, ma che roba estrema, l'oceano con la canoa. Ma scusa, aiutiamoli a casa loro, sciocco. E aiutiamoli a casa loro, quello che vorresti fa te, solo che te non fai né quello né cazzo. Rompi solo i coglioni alla radio quando ti chiamiamo. Questo è quello che pensi tu. Io li aiuto a casa loro. Siccome c'è emergency o i dottori a tutte queste cazzate che esistono qui, dove noi abbiamo dato 550 milioni una settimana fa, il buon Di Maio, allora questi organizzano, si prendono la responsabilità, come se la prende lei quando manda le persone nel Golfo Persico a lavorare, capito? Non devo pagare io una che va a fare i cazzi suoi in Kenya e poi la rapiscono, torna musulmana, sposata, forse pure incinta, e partorisce qua e diventa pure italiana, devo fare il congiungimento con quel tornuto che sta giù in Kenya. Ma che stai a dire, ma che stai a dire? Non si sa se... Ma che dice il cervello? Ma questo non si sa se è incinta, non è confermato, lei ha detto di no, non si capisce, cioè non è una cosa, non si sa nulla. Che ne sa lui che sta sulla sua poltrona di casa a... pontificare a destra e a manca questo qua, e a pure insultare una che è stata 18 giorni in prigionia. 18 giorni in prigionia è stata, e questo rompe pure le palle. Pensate. Col giubbotto antiproiettile dalla Turchia. Poi mi devi dire il carabiniere. Ma che vuol dire? Ma l'hanno aiutato i servizi segreti turchi, per forza c'era quel giubbotto lì, asino, d'un somaro, d'un asino che sei. Io so fare la guerra a tutti i musulmani, guerra. Sì, così in generale, guerra, qui, disse dalla sua, tutto grasso, tu, ma che guerra fai tu? Fai la guerra al frigorifero, l'unica cosa che fai, apri il frigo e mangi, quella è l'unica guerra che fai te, quale guerra ai turchi puoi fare? Sudato, non ho chiesto un cazzo a nessuno, l'unica capito? Guerra, dice, Bracconeri, che cazzo di guerra fai? Oh, apro il frigorifero, però scusami, posso dire una cosa, Fabrizio Bracconeri, diciamo, rappresenta quella grande numero di italiani che appena hanno visto scendere una, che abbiamo pagato 4 milioni di euro per farla tornare, uno può dire, va bene, abbiamo pagato... un riscatto, vabbè, diciamo, dire viva. Diciamo 4 milioni. Viva che è tornato un cittadino italiano, fratello d'Italia. Bisognerebbe dire fratello d'Italia, caro fratellino d'Italia. Un musulmano non è fratello mio, per me sono ma scusami, è una cittadina italiana, fratello d'Italia, oh, fratellino d'Italia, è un cittadino, è una cittadina italiana che abbiamo riportato sul suolo patrio, hai capito o no? Somaro non somaro. Segna subito disperata per tornare dai suoi amici. Ma un cittadino italiano avrà diritto di fare quello che gli pare o no? Cazzo. Ma non ho capito, ma un cittadino italiano avrà diritto, tu hai diritto di aprire il frigorifero e di mangiare fino a diventare una otre grassa e quella lì ha diritto di andare a salvare delle vite in giro, chi se ne frega, ma no? Vita, perché ma chi è che va fino a casa di portarci tua che deve andare a fare laggiù, ma chi gli deve, tu gli devi insegnare agli altri cosa devono fare, ma impara, ma scusa, tu che io posso dire una cosa, ma allora non me rompe il cazzo, ci stanno rapito, fa adesso cazzi tua, chiama la famiglia tua che te li ha salvati, uno di sorti mia, hai capito o no? Uno può perché essere libero Ne assumi le responsabilità, uno può essere libero di essere incazzato se uno arriva pagato da noi, bardato da islamico, ha diritto a essere incazzato che torna o no? In Italia è un cittadino italiano che torna in Italia, quindi lui che fa tanto il patriota, il patriota dei coglioni in questo caso, ma è arrivato con le stessi vestiti dei terroristi che l'hanno imprigionata, ma chi se frega, ma cosa vuol dire? Vabbè, perché non ha diritto allora, a tornare benissimo. Quindi allora benissimo, se catturano un ebreo e viene vestito da musulmano, viene vestito da razzista, tu stai contento? Ah, ma Davide, ma che cazzo ma dici? Che razza di paragone è? Ma che razza di paragone è? Ma che razza di paragone è? Come se tutti i musulmani fossero terroristi. Quando ti fa comodo va bene, quando non ti fa comodo non va ma bene. No, ma perché stai dicendo una follia? Sarebbe come dire che tutti i musulmani sono terroristi, cosa ma che no, non è però, vero. Quella... No, ma tutti i terroristi sono musulmani però. Tutti i coglioni e tutto il coglione si chiama Bracconeri, allora potevo dire. E Bracconeri è incazzato perché questa primo perché abbiamo pagato, secondo perché è diventata islamica, o sbaglio? Cioè, ma certo, ma soprattutto perché vuol dire che stavi bene, per cambiare tu me devi spiegare poi in Kenya, stava bene. Che 18 mesi scritto, in carcere stava scritto, bene, sbattuta da, una, da un posto all'altro. Ma che ne sai te? Ma guarda sto somaro, ma che ne sai te? Che ne sai te? Se l'hanno liberata, allora, evidentemente stava in prigionia, no? Come ha raccontato lei, o se stava a divertir, o se stava a divertir. Stiamo parlando di cose che non sappiamo nessuno di noi, che lei sia no, lo Stato lo sa, i servizi segreti che l'hanno liberata sanno evidentemente. Era in uno stato di prigionia, oppure se stava a divertir? Dimmi te. Benissimo, benissimo. Allora, però facciamo una cosa, il carabiniere che è morto, che stava nel suo lavoro, mi sembra che è morto solo con la vedova abbracciata alla cassa da morto, non c'era il ministro Conte, il ministro Di Maio o il presidente questo Conte, cosa c'entra? Cioè non gliene è fregato un cazzo, però di questa adesso che è arrivata e l'ho vista io a Milano, 2000 persone sotto casa, stanno ha detto assembramento, ha rotto i coglioni per 10 giovani che sono andati a fare l'aperitivo dopo due mesi di arresti domiciliari, ma potete andare a fanculo o no? Ma cosa c'entra l'assembramento? Perché gli italiani non hanno i coglioni a scendere in piazza, perché sarebbe da piantare a tutti i calci nel culo, sarebbe di prendervi a calci nel ma culo. Ma questo è proprio il qualunquismo proprio all'ennesima potenza. Ciao Fabrizio! Ma quale qualunquismo? Ma quale qualunquismo? Questo è il dato di fatto, stavano arresti domiciliari senza aver fatto un cazzo. Ciao Fabrizio! Non sapendo neanche che cazzo sta succedendo. Ciao Fabrizio! Ciao! Chi era quel cretino di poc'anzi? Che c'entra adesso, dai. Comunque ragazzi, stanno circolando sull'internet. Che fatica stasera, mi avete fatto la fatica enorme, che fatica enorme. Avete accerchiato, accerchiato. nella foga ho detto 18 giorni una volta, ma invece sono 18 mesi, 535 giorni di dolore, no, ma insomma nella allora, foga stanno circolando sull'internet. Chi altro c'è adesso? Chi c'è? No, chi è c'è? Finita, nipote è di quasi Hitler? Finita. Chi c'è? Ah, è quasi finita. No, ci siamo, abbiamo con noi il nipote di Hitler. Buonasera, sì. Allora come sta? Tutto uguale per te. Buonasera, come si chiama lei? Rudolf, ah, Rudolf Hitler abbiamo. Buonasera, signor Rudolf, che cosa voleva dire? Ma secondo me il rapimento della signora Romana, perché per te è tutto uguale, no? Tutto uguale. Il nipote di Hitler chiama. Vabbè, vabbè. Il nipote di Hitler. Ha diritto di parola. Tratto, pure scusate, lui. Certo. Pure lui di parola. Magari ci fosse il nipote di Hitler che parla. In Germania no. In Germania non avrebbe diritto di parola. Vabbè, il nipote ma è sbagliato. Di Hitler. Il nipote hanno che imposto che ai familiari fatto di cambiare, hanno abolito quel cognome. Ma che per fortuna. Sì, d'accordo. Ma che cosa che se mi posso permettere, in finale di trasmissione, cosa andrebbe fatta anche in Italia, come hanno fatto in Germania. Quella leggina fatta in Germania. Ma lo approfondiremo nelle prossime puntate. Mi sono confrontato con importantissimi avvocati padovani. Ai Mussolini, importanti avvocati padovani di cui farò il nome nei prossimi giorni, che non sono solo quelli della mia famiglia, ma un importante avvocato padovano mi ha suggerito una cosetta che, cioè, secondo te chi si chiama Mussolini dovrebbe cambiare cognome? Non lo so, chi? Non lo so. Ne parleremo, no, ne parleremo nei prossimi giorni. Sarebbe incredibile. Studierò la legge tedesca e ne parleremo nei prossimi Andrea, giorni. Andrea, provincia di Napoli, per chiudere. Aspetta, Andrea, fammi sentire. Tutto Andrea uguale, per chiudere, tutto uguale. Tutto sì, uguale. Buonasera, Giuseppe. Ciao, David. Dimmi. Buonasera. Dimmi, non ti vergogni di come stai portando avanti anche tu questa propaganda dell'odio, di queste mezze frasi, di questi. Bravo. Di questi retropensieri del cazzo che si fanno solo in questo paese. Stiamo parlando liberamente, per fortuna. C'è un posto dove si parla liberamente di cose che magari altre persone non parlano, cioè riscatti. Cioè, liberamente non sarebbe andare lì con lo scandaglio a vedere il dress code di una persona che viene rilasciata. Ma non sono andato io lì, ma quella è il coso. Ma quella di è la. Quanto hanno pagato, di certo. Quanto non hanno pagato. Ma a te non ti interessa di sapere dove sono finiti i soldi, i suoi soldi? Non ti interessa a te dove sono finiti i tuoi soldi? Non ti interessa di parlare di questo? Quello è un fatto pubblico, come uno si presenta all'aeroporto, è un fatto pubblico, pubblico, e quindi dunque riguarda, lo sai chi riguarda? Lo sai chi riguarda? No, è una questo frase è un titolo, adatta, questo è un titolo, adatta. Questo è un titolo di giornale, un'altra cosa, e dunque interessa schifo, una categoria di persone. A te fa schifo, beh, gli italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri e mi scopo Giusy Ferreri.